Gianni, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. E se lei vede Brunetta che giura davanti a Napolitano, è cretino. La prima cosa che faccio, cerco un seggiolino per poterlo mettere a livello, all'altezza, insomma, della situazione. E beh, per un minimo, ma è una gentilezza che si fa a Brunetta e anche alla società, perché non hai questa angoscia veramente di qualcuno che non ce la fa. Bisogna aiutarlo. Senza essere cresciuti. La maldicenza in sé. Adesso ieri sera non gliel'abbiamo detto perché volevamo tirargli fuori tutto, eccetera. Ma questa roba non è da premio Nobel, è da premio ignobel. Eccolo qua, l'animo. È una cosa, ecco, ignobile. L'animo cattivo è di una Colciani, cosa che non capisce la differenza delle parole di un gran maestro. Ma qual del è la teatro, della prendere per il culo uno perché è basso? Beh, ma che c'entra? Ma è satira. La scaletta, lei che è il seggiolino. Lei che è satira. Il direttorissimo. Lei che è l'irriverenza, il politicamente scorretto fatto a persona. Ma che rompe i coglioni al Nobel per una battuta sul signor Brunetta. Questa è una vergogna. Dai, e basta, è premio ignobel, non è mia, oggi l'ho letta. Ma quale vergogna, che ieri lo stavi lisciando così? No, io lo lisciavo, lo sai benissimo. Allora perché... cosa possiamo dire sul signor Brunetta e già gli occhi? Ma che c'entra? Io l'ho fatto apposta, però dentro di me covava un sentimento di repulsione nei confronti di Dario Fo. È satira. Premio ignobel, non era satira, perché non era una vignetta. Ah, il titolo dell'Huffington Post e la sua annunziata. Non mi interessa, lascia per l'Huffington Post, lo lasciamo solo io e te, non i camionisti che stanno in giro. Però non è che il mondo dei camionisti, però questa gente barbara che chiama, io voglio dirlo, questi barbari che telefonano la nostra trasmissione, dei barbari. Ma saresti in mezzo a una strada senza i barbari. Ma saresti in mezzo a una strada. È la radio di Squinzi questa, la smetta con questi camionisti. Vabbè, comunque ha detto anche la scaletta, te lo ricordi? Sì, oppure sei completamente annebbiato già? No, ma anche la scaletta, cioè che per giurare, se diventerà ministro, e sembra che diventerà ministro, che bella l'immagine. Berlusconi lo vuole a tutti i costi, gli serve una scaletta. Poi in realtà per giurare non ci vuole questo, perché sai quando si fa il giuramento, no? Però se il tavolo è troppo... Ma no, perché quando tu giuri dai il foglio davanti, anche Brunetta ci arriva, cioè non è che Brunetta non ci può arrivare. No, ma ci arriva anche Brunetta, è basso. Cretino. No. Sei cretino. La scaletta. Cosa vuol dire avere? Oppure una scaletta. Ecco, la scaletta forse è meglio, perché uno si regola da sé. Ma non insisterei, perché non è mai gentile approfittare della situazione fisica di un personaggio per denigrarlo. Perché guardiamo invece il suo cervello. Quello sì che è una cosa che bisogna denigrare. Ma ha pure detto non bisogna denigrarlo. Io l'ho risentito oggi a lungo, prima di diffondere urbi e torbi questa cosa. Cioè l'ho risentita, cioè non c'era ironia. È un coglione quando parla così. No. Quando parla così è un coglione, sì. Ma è Nobel. Quando parla così, parla così. Io non dico che è un coglione in assoluto. Quando parla così, in questo modo, secondo me se n'è già pentito. Sono sicuro che se n'è già pentito. Ora che è scoppiato il caso se n'è già pentito. Ma ha fatto di peggio, ha fatto un'opera straordinaria. Non me ne frega niente, ma può fare quello che vuole. Quando parla così, sempre un coglione resta. Anche Brunetta di sue ne ha fatte, per carità. Per esempio, a un certo punto ha detto che voleva vincere il premio Nobel, ti ricordi? Sì, come no. Premio Nobel. Sì, meriterei il Nobel. Sentiamo. Io avevo, ma lo dico con un po' di autoironia, volevo vincere il premio Nobel. Spero stia per scherzando. L'economia. No, lo dici davvero? No, io ero anche bravo, ero, non dico lì per farlo, però ero nella giusta... ha prevalso il mio amore per la politica e il premio Nobel non lo vincerò più. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha ha detto guarirà. Siamo qui, Perugia, Festival del Giornalismo, buonasera, buonasera! Il Festival di Perugia saluta Enrico Letta! Ecco l'applauso per il nuovo primo ministro incaricato del governo Irco Cervo, un governo un po' capro e un po' cervo. È amico di Letta, eh? 800240024, qualcuno oggi ci ha messo all'interno della lobby lettiana. Noi? Sì, in qualche giornale ho letto. Che siamo andati due volte a Vedrò per lavorare. Per un fischio per Enrico Letta, fate un bel bu per Letta per cortesia. Ma non è vero che ci sono tutti i comunisti però, ragazzi, è pazzesco. Allora, un applauso per Enrico Letta. Però è una cosa pazzesca. Letta, Crimi, sentite, consultate anche voi la base, gli rimprovera Crimi perché ieri poi ha vinto 10-0 come sappiamo in questo confronto. Temi un po' provocatori positivi e propositivi, per scelte future di questo tipo sarebbe bello se anche il Partito Democratico interpellasse i suoi iscritti, per esempio. Guardi, perché non la può dire così, perché Stefano Rodotà è stato scelto a 4.677 iscritti. Il nostro candidato sindaco di Roma è stato scelto da 50.000 iscritti. Era stato scelto anche precedentemente nel collegio elettorale di Brescia, visto che è attualmente senatore. Suggerisco di non andare su questa strada. Aveva ragione Letta, 4.500 persone per Rodotà e ancora parla di base. Crimi, il procione lavatore, com'è che lo chiamò? Non mi ricordo chi. Se li è magnati questi grillini. Paolo Villaggio è con noi, buonasera. Ma dov'è Villaggio? Paolo? Villaggio? Ma è vivo? Sì. Villaggio? Sì. Come va? Voi dite prima come state voi. Beh, non bene, male. Ma dove sei? Ce la caviamo. Ma dove sei, Villaggio? Sì, sono in macchina. In macchina? Ah. Che fai in macchina? Automobile, sì, un'automobile corazzata io. Sì. Come corazzata? Sì. Perché corazzata? Non hai bisogno di un'automobile corazzata tu? Beh, per vanità più che altro, per sembrare importante. Piuttosto vi vedo ancora impantanati sulla politica, i nomi. E beh, per forza. Sì, perché? Brunetta. Sì, a testa simpatico. A testa simpatico. È il più grande, anche se poi quando ha vinto il Nobel in Italia... Sì. Han detto il mistero buffo di Stoccolma, di cattivo gusto. Io trovo anche di cattivo gusto però infierire sulla statura di Brunetta, no? Ma proprio lei non farebbe mai ironia, signor Villaggio, vero? Come? Lei non farebbe mai ironia su Brunetta, signor Villaggio, vero? No, sinceramente no, perché mi sembra una persona che deve aver sofferto abbastanza poi quella statura, no? Invece penso che sia una persona molto, insomma, molto gradevole poi alla fin fine. Alla fin fine, dici, in fondo proprio. Gradevole. Sì, perché c'è la ma non è l'aggettivo che userei però per descrivere Brunetta. Comunque cioè, è uno considerato molto antipatico il signor Brunetta, cioè non è uno considerato simpatico. No, non è io. Ha un carattere scontroso, se la ricorda la battaglia contro i fannulloni? Mi ricordo che la intervistammo mille volte, no? Vabbè, ma non insomma... direi che non è tra i più antipatici. Beh, insomma, no? Anche voi che non vuole più una certa antipatia però ma sì, quello sicuramente però deve sapere che Brunetta quello è sicuro al mercato dove vado io anche sulla macchina blindata dicono quelli della Zanzara Dio mio perché voi parlate un linguaggio un pochettino un po' troppo dedicato agli intellettuali, no? Più che altro. Guardi, la parte bassa del corpo, diciamo. Non mi sembra proprio, non mi sembra proprio. Cioè, anzi, siamo arrivati veramente a livello. Non vi ascolto, però comunque non ispirate una grande simpatia, quello è sicuro. No, quello sicuro. No, quello è sicuro perché siete velenosi, no? Sì, sì, sì. Siamo anche un po' omosessuali. No, non credo. No, che un po', io ho sentito dire che lo siete completamente. Ma Villaggio è una querela per diffamazione aggravata anche comunque. Ma ogni io lei sono corazzato, ho due avvocati da battaglia io. Lei ogni volta è fissato su questa cosa, che noi siamo omosessuali. Perché si è convinto di questa cosa lei, Villaggio? Non l'ho capito. Perché la voce, no, poi le voci, il tono, voci voi avete poi quella perfidia tipica degli omosessuali, no? E sono risentiti per tutto quello che hanno partito. È un omofobo pazzesco. Perché sono perfidi gli omosessuali? Direi di sì. Ma di una cattiveria, ma era di democrazia proletaria, signor Villaggio. Dice che cos'era? Democrazia proletaria. Lei era molto comunista, signor Villaggio. Molto. Però il comunismo. Tuttora. No, progressista, la si perde. Cuore a sinistra, portafoglio a destra, Villaggio. No, sì, io ho due portafogli, sì, sinceramente, perché sono ricchissimo, perché io ho militato sia nel partito, nelle Brigate Nere, dai, detto francamente. Cioè, non lo so, ma io... Sì, Brigate Nere, Repubblica di Salò, voi non c'eravate ancora. Ma ci sta coglionando? No, ma quale Brigate Nere? Quello era Dario Fo, ci sono le accuse su il Dario. Il maestro Albertazzi. E Albertazzi. E io anche... Io anche. Lei. Ma non era nemmeno nato all'epoca. No, adesso voglio vedere. Quando è nato lei, scusi, signor Villaggio? Nel 1928. 1828? No, nel 1928. Ah, 1928. Ma tra lei e Berlusconi che età, che differenza c'è? No, è del 32, Villaggio. Ma è del 32, sì, ma quanta aveva lei? Ci sta coglionando. Ma avevi 12 anni quando c'era la Repubblica di Salò, sì, 12 anni. Come no, sai. Certo, ma no, però i miei genitori, mio padre. Erano repubblichini? Sì, lui era repubblichino, quindi io lo seguivo. Okay. Poi invece, quando è finita la guerra, io che sono un guardacampana, mi sono iscritto subito al Partito Comunista. A sinistra del Partito Comunista cinese addirittura, in una posizione... Ah beh, giusto, sì, no, certo. Però mi dica una cosa, Villaggio, mi dica una cosa, questo governo che si sta per approntare, no? Questo governo Irco Cervo. Sì, questo matrimonio contro natura, questo accoppiamento contro natura, dove c'è Schifani da una parte e Letta dall'altra. Non c'è detto che c'è Schifani. Ma non c'è altra soluzione, ragazzi, dai. Adesso, pure lei è per le grandi intese. No, non sono per le grandi intese che fanno paura, perché fanno un po' paura, perché mi sembra che più o meno tutti adesso gettano degli urli, bisogna fare il governo, però sinceramente l'interesse di questi è mantenere un po' di potere, non veramente in questo momento tirare. Ma allora, non ha detto due secondi fa che non c'è altra soluzione, poi dice adesso stanno insieme solamente per mantenere il potere, si decida pure lei, Villaggio? Lo sto dicendo, sì. Mi sembra un po' confuso anche lei. Guardacabana, no? Glielo ho detto. Ah, no, capito, sì, però ogni 30 secondi non è possibile. Secondi, Vabbè, traffico, torniamo subito, resti lì, traffico. Ma in macchina dove poi? Ma che cazzo ne so? La Zanzara. Sei ancora a casa, Simo? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Signor Fo, ma la parola Schifani, adesso lo pronuncio bene, Schifani al governo, le fa orrore? È un'omatopeica, già dentro c'è il rifiuto di accettazione e soprattutto un senso di angoscia e di repulsione nel suo nome. E quindi io mi rifaccio a questa forma, diciamo, sonora e soprattutto onomatopeica, come dicevo prima. Abbandono il mio corpo Ho trovato oggi, anzi mi hanno dato i colleghi della mattina un audio di Giuliano Amato. Io ogni tanto ancora mi fisso su Giuliano Amato, sulla pensione di Giuliano Amato. Signor pensione. Perché potrebbe diventare ministro in realtà, non è finita la storia di Amato, non è diventato premier per cumulare varie... ancora. No, non credo, spero di no, che non cumuli nulla e spero che non lo faccia anche gratis il ministro, no? Sì. Se lo dovesse fare. In cui Amato dice: i giovani avranno una pensione miserabile e staranno in macchina. Amato, 31.000 euro al mese. Quando arriveranno al trattamento della pensione si renderanno conto che hanno campato con uno slalom continuo a cui noi non eravamo abituati per tutta la vita lavorativa, e poi, sempre che non abbiano il problema dell'esodo e della mobilità intermedia tra la fine del lavoro e la pensione, si ritroveranno con una pensione con cui proprio non potranno vivere, una pensione miserabile. E che li porterà dall'appartamento dentro l'automobile, se ne avranno una, per passarci la notte, come sta capitando. Ma io veramente resto basito, perché probabilmente è vero quello che dice, però è anche perché prima erano una vergogna le pensioni, il modo in cui venivano distribuite. E lui non le ha modificate. Una cosa pazzesca. Paolo Villaggio è con noi dalla macchina, ma io non credo che sia in macchina, Villaggio. Non è vero, Villaggio, non è vero che lei è in macchina. Non sento rumori, dov'è? Villaggio? Sì, sono qua, sono in ascensore ora. Ah, in ascensore, allora non era... Sì, dai, un secondo, sì, ma dove... un piano solo. Sì, vai, che c'è? Con chi sei in ascensore? Con comodo, eh? Ma cosa fa? Non lo so, è in ascensore. Sì, siamo alla radio. Meno male. Ma questo governo non è un po' una cagata pazzesca? Come cioè, direbbe il signor Fantozzi sulla corazza da Papionchi? Speriamo di no, come vuoi che si dica. Speriamo. Sembra che sia l'ultima speranza, no? Ma lei l'ha visto in faccia il signor Enrico Letta? Enrico Letta in faccia con gli occhialini, pelatino, così, finto, un po' professorale, finto giovane. Però ci sono delle foto da giovane che aveva dei capelli umani. Quindi poi da giovane, molto, a 45 anni. Zio, poi molto simpatico, potentissimo, no? Beh sì, lo zio è potentissimo, la famiglia tutta è potentissima. No, potentissima, non lo so. Lo zio lo conosco, è molto simpatico. Lui no, non ha una faccia simpatica. Non ha una faccia simpatica, perché non? Conta molto è l'aspetto fisico anche, no? Sì, e che c'ha come aspetto fisico? Eh sì, la Cancellieri per esempio non è tanto gradevole fisicamente, hai capito? Sì. Però avevamo detto potrebbe che restare ministro degli Italia. Perché, detto perché che non è gradevole? Perché non è gradevole la signora Cancellieri? Non lo so, voi siete omosessuali, quindi non avete idea di che cos'è l'aspetto fisico di una donna, ma lei non è tanto una strafiga, no? No, quello non c'è dubbio. Operato, l'Italia però ci rimette. Io l'Italia ci rimette. Sì, come immagine, no? Come insomma, ma magari servono altre cose per ma fare voi, scusami, una domanda particolare. Voi parlate solo e sempre adesso di politica? Sì, io politica, sesso, omosessualità. Se lei, sì. Se lei... ma l'omosessualità, d'accordo, ormai è una cosa. Sesso, voi, politica, potete potere. Adesso. No, in Francia. Volete, potete andare in Francia. A Nizza. Ma non vuole smettere di dire che siamo omosessuali? Sì. Scusa. Ma a Nizza possiamo fare? Lei è contento che in Francia ci sia questa cosa? Sì. Molto, sì. Molto contento, mi sembra sì. Molto civile, dico la verità. No, questo. Questo è importante, quindi applauso per Villaggio per questa cosa, su applauso. Qui ci sono un sacco di ragazzi, Villaggio, che si ricordano di lei in altre epoche, vabbè, insomma. Sì, quando era famoso. Com'era? Quando lei era famoso. Quando era famoso e bello. Fantozzi, quando lei era bello, adesso bello non è mai stato, eh. Ma quanto no, rimorchiava no, quando... No, no non vabbè, è mai stato insomma, bello. Beh, io sinceramente ero considerato veramente un uomo, uno scarafaggio proprio. Beh, ho vinto appunto, sì. per tre anni di fila un concorso a scuola, votavano le ragazze al liceo Doria, il più brutto di tutta la scuola, è stata una cosa molto umiliante. Un'infanzia felice ha avuto, bene. Bravo. Senta, ma veramente questa Cancellieri le sembra così brutta? No, poco attraente. Ma come no? Scusa, l'ha detto tre secondi fa. Poco attraente, ecco. Poco tre, diciamo la verità, ha un po' anche la voce mascolina, non aiuta, quella voce così, no? Cioè, quello la Finocchiaro, dico la verità. Sì. Ma era meglio la Pina o il ministro Cancellieri? Pina! Com'è che faceva? La Cancellieri della Pina? La Cancellieri, meglio... sì. Più attraente della Pina. Siamo lì però, Voi invece che parlare di politica, di che cosa potreste occuparvi in questo momento? Ma di nulla, sono di stazione, per esempio. Del Papa volevo di che cosa? Ma lei ha mai bevuto l'urina? È una curiosità, siccome noi abbiamo avuto un maestro, un professore che ci ha fatto lezione l'altro giorno qui alla Zanzara, non ci occupiamo solamente di cose di politica, anche di alimentazione alternativa, di cibi alternativi, eccetera. C'è un professore molto gradito a Parenzo che ci ha fatto una lezione sulla urinoterapia, che in sostanza significa che si può guarire da tantissime malattie bevendo l'urina, la propria urina, non degli non altri. Degli altri. Ma io lo faccio non da tempo, però sono in difficoltà. Non è la prima volta che sento dire questa cosa. Io l'ho fatto perché 20 anni fa in Germania, esattamente, Germania dell'Est allora, a Lipsia, mi hanno costretto a questa terapia contro il diabete, perché io purtroppo ho il diabete mellito alimentare. Sì. Ma veramente lei l'ha fatto o ci sta coglionando? Sì, questo. Che di tutto, vero. Guardi, ho fatto di tutto, sono andato a Lourdes, niente ragazzi, a Pietralcina, da Padre Ma dovrebbe Pio. Riprovare, guardi, le do il numero di questo signore, che è un signore molto competente, eccetera, che veramente la Ma può consigliare. Anche lui è omosessuale, vagamente? No. Non è che è vagamente fissato lei? Sì, è fissato. Senta, ma Grillo non l'ha delusa... Ma Grillo che, insomma, lei ha votato, ecco, no? Grillo, bravo, Grillo. Sì. Grillo hanno continuato a chiamarlo, adesso ha dimostrato di essere un abile politico, c'è poco da dire, è molto popolare, è molto ben voluto. Sì, ma non sta sbagliando adesso, non sta sbagliando? No, non è deluso? No. Da... No, no, direi di no, no, è così che va avanti la cosa. Ma lo rivoterebbe Grillo lei sul villaggio? Sì, caro, sì, sì. Ma non Grillo, l'idea di Grillo, hai capito? E qual è l'idea di Grillo? Lei la sa. Tutto. È quella lì di ringiovanire chi ha governato e è stato al timone nella Santa dei Bottoni di questo paese negli ultimi 30 anni. Quindi questi in un bel momento hanno avuto dei tali privilegi, delle tali possibilità, sono più che altro della gente, vedi, poi i domandi non sono laureati, è tutta gente che ha fatto prima il portaborsa e poi ha fatto fuori il pesce grosso che stavano seguendo come delfini, poi quando l'hanno fatto fuori sono diventati potenti e quindi, ma se gli domandi, per esempio, lo domando a lei per esempio, gli domandi, figura retorica, anacoluto, che cosa vuol dire? Me lo dica lei. A lei ancora anacoluto, ancora con anacoluto, noi abbiamo i computer qua davanti, possiamo facilmente... Non, e non andiamo a guardare, vado a prendere il computer. Questa figura retorica dell'anacoluto, anzi, risponde Parenzo. Un esempio di un anacoluto. Risponde Parenzo che è molto più intellettuale di me, io sono un uomo della strada. L'anacoluto mi viene in mente, un'altra era. Sì, veramente. L'anacoluto detto... L'ossimoro, sì, Vergine Madre, mi viene in mente. Villaggio. Come? Vergine Madre, figlia dello tuo figlio, Dante, canto quinto del Paradiso, la Madonna, la Vergine. Come intellettuale lei? Senta, ma il suo non governo sono molto intellettuale. Sono di una vecchia generazione, purtroppo. Ecco, non appunto, a proposito di vecchia generazione, ma ha visto Napoletano rieletto? Napoletano rieletto 88 anni, che effetto le fa? Beh, che non dura fino alla fine del mandato, mi sa, perché. Vabbè, gli era perché, stati... dice, perché dice? Perché dice? Come, scusi? Cioè, crepa prima, dice lei. Sinceramente, temo che non ce la faccia ad arrivare fino alla fine, l'aspettativa di vita è un pochettino imbarazzante, è un uomo molto simpatico, un po' curvo, un po' vecchio, diciamoci la verità. Però, diciamo, scusi, voi quanti anni avete, scusate? No, noi guardi... Non... No, noi siamo, non siamo verso... siamo ancora, io siamo 37, ancora giovani. Sono lei 47. Sta, però lei sta dicendo... giovani però voi. Sì, più o meno. Io, lui 10 anni di più, ma insomma... Però ma non dimostro, sì, però... Vabbè, d'accordo, ma questo anacoluto, però non siete stati capaci... Vabbè, lo so. Ma sì, ma ce l'ho qua davanti, io voglio capire una cosa. Cioè, secondo lei... No, secondo lei 7 anni a questo punto non li regge Napolitano, no? No. Da 88? A questo ritmo no, no. Questo ritmo? No, beh, anche se si vive fino a 130 anni in genere però, no? Beh, insomma, no, lei dice che prima... solo la Montalcini, dai, per carità. Nella Montalcini faceva una vita molto, molto meno stressante, sicuramente. Sì. Cioè, sicuramente, qualcosa succede prima? Cosa potrebbe accadere prima? Cioè, prima di questi 7 anni a Napolitano, cosa potrebbe accadere, signor Villaggio? Beh, essere rieletto, ma mi sembra però la cosa del tutto improbabile. No, quello per la terza volta mi sembra difficile. No, in questi 7 anni cosa potrebbe succedergli secondo lei? Un malore, una cosa? No, per carità, non vogliamo dire nulla, eh. No, l'aspettativa di vita, purtroppo. L'aspettativa di vita. Cioè, lei dice statisticamente questo media. Dice lui. Questo sì, dice, statisticamente questo statisticamente dice. Quello è. Quello questo. È. Vabbè, quello comunque... È. Quello è. Beh, quello è, speriamo di no. Beh, speriamo di no, noi speriamo sempre speriamo, di no. Speriamo, ma insomma, voi siete però perfidi e magari aspettate con ansia questo momento. Ma assolutamente no. No, noi lo aspettiamo con ansia. Lei lo aspetta con ansia il momento della morte di Napolitano, no? No, per carità, anzi, io sono sicuro allora... che arriverà a 142 anni. Ah, meno male. Grazie Villaggio, grazie, buona serata. Ma ragazzi, però non ci siamo detti niente, è stato un intervento miserabile quello che ho fatto. Come al solito, per forza, come al solito. Sì, quanto, io devo dire una cosa, lei si è messo d'accordo con il signor Squinzi per i soldi, quanto vuole intervento? Il cachet. No, niente. Nessuno l'ha chiamata. Squinzi. Ma come, chi è? Il presidente della Confindustria. È il nostro capo, quello che ci dà i soldi a noi. E quindi quanto prendete voi? Scusa la curiosità. Che gli frega lei? Insomma, prendiamo un po' di soldi. Però insomma, i soldi ci sono. Ma cioè, i soldi chiede ci a noi quanto prendiamo? Scusa. I soldi ci sono. Lei quanto vuole? Batta cassa. Chiami. A dopo. Giornale Radio. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. È il Vaticano. Il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, ma peggio è. Pure lo spray, a di Zanzara mi sono messo il tè. Se lei vede Brunetta che giura davanti a Napolitano, è cretino. La prima cosa che faccio, cerco un seggiolino per poterlo mettere a livello, all'altezza insomma della situazione. E beh, per un minimo, ma è una gentilezza che si fa a Brunetta e anche alla società, perché non hai questa angoscia veramente di qualcuno che non ce la fa, bisogna aiutarlo. Io più lo ascolto e più mi rendo conto che la parola coglione, quando si parla di Po che dice una cosa del genere su Brunetta, è assolutamente appropriata. Ma vattene pure, vattene, eccolo là, sono due porte, c'è anche la finestra per buttarsi. Ora mi alzo, c'è anche la finestra, buttati. Mi sto alzando e me ne sto andando. Ma vai, perché non si può essere così irrispettosi, non perché è un premio, ma perché fa satira. La satira vale per tutti, è corrosiva per definizione. Ma leggi quello che sta succedendo, sono delle frasi vergognose quelle su Brunetta, vergognose. Al senso dell'umorismo, Brunetta, su. Ma sei sicuro? Beh, non mi va, non mi sembra. Comunque c'è un personaggio straordinario che voglio presentare. Si tratta del Barone Colucci. Il Barone Colucci, il Barone Colucci, ti piacerà moltissimo. Colucci. Più avanti lo sentiremo. Barone Colucci, però un piccolo adesso. Assaggio: il Barone Colucci è candidato sindaco a Monopoli. Ma poi i baroni? Beh, così si fa chiamare il Barone Colucci. Monopoli, sentite in Puglia. Un piccolo assaggio, sì, Monopoli, una città anche importante, sì, un centro importante. Sì. Barone Colucci? È chiaro che i giovani devono fare le famiglie, non credi che fanno gli anziani. Voglio dire, io invito tutti i giovani di Monopoli a trovare un posto di lavoro stabile e a matrimoniarsi per fare i figli, perché così facendo creiamo una vera democrazia. Beh, matrimoniarsi, invito i giovani a matrimoniarsi. Non avevo mai ascoltato il Barone questo termine. Colucci. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglia. Letta incontra Napolitano e accelera sul governo. Domani potrebbe sciogliere la riserva e giurare con i ministri. Lunedì il dibattito sulla fiducia. Berlusconi è ottimista, non ci sono problemi insormontabili. Io fuori, farò una squadra di giovani e donne. Maroni sulla fiducia, decideremo domenica. Renzi, Letta farà un buon governo, è presto per parlare di espulsioni, il PD sarà compatto, ma nel partito resta un gruppo di dissidenti. Grillo attacca, il governo è ammucchiata in stile bunga bunga, ma nella diretta streaming con Letta il muro 5 Stelle è apparso assai meno solido. L'IMU, la tassa sulla casa, pesa sulla nascita del governo, cancellata, restituita o ridotta, ma rimane il rebus come recuperare i soldi che mancheranno. Forte richiesta per i titoli di Stato oggi all'asta, tassi al minimo storico, più tempo alla Spagna per ridurre il deficit, BCE, allarme credito per le piccole imprese. Più di 300 morti nel crollo di un palazzo fabbrica in Bangladesh, gli operai, molte donne, cucivano capi firmati per meno di un euro al giorno. Sembra che la comunicazione, perché poi su questo piano si gioca il consenso, vede Berlusconi surclassare quegli altri, perché nel momento in cui Berlusconi dice via IMU, via Equitalia, tu devi dire liberalizzazione dell'amore libero, come dire, una devi promettere di comunicazione, fornisci politica. Dei coupon thing, perché così tutti possano tradire il coniuge, c'hai 5 coupon a disposizione, devi fare così, se no non se ne esce. Sennò Berlusconi... Questo era Abate, mitico. Signor Abate. Mitico Abate. Siamo qui, Paolo da Milano. Buonasera, Paolo. Ma, sì, vada. Vada, sono vada. Io. Allora, non buttatemela in cacciara, però, eh. Allora, non so se sono all'altezza di controbattere un premio Nobel per la letteratura. Sì. Ieri faceva ironia, ovviamente, sull'etimologia di Schifani, no? Sì, Schifani, no, di là, sì, su Schifani, sì. Giusto, sì. Però dico, comunque lui ha un cognome che è un passato remoto. E io dico che... Un attimo. Chi è questo? Non rispondo. Squilla il telefono. Ma sì, risponderà. Tutti tremano alle 19:20 quando sentono un telefono squillare. Dico, la zanzara, non rispondo. No, la moglie è incazzata vera invece. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Lasciamo un messaggio. Lascia un messaggino, sì. Risponde la segreteria telefonica. No, passiamo tutto. Paolo, che diceva? Allora, io dicevo, non so se sono all'altezza di controbattere un premio Nobel, ci mancherebbe dalla letteratura, però se facciamo ironia sulla tipologia di Schifani, che è evitare, no? Ma in significato attivo, il cognome del Fo è un passato remoto, ma è remoto proprio come si esprime, ancora sull'ironia, altezza, un po' fascista, basta mettere la A al posto di fascista e diventa fascista, dai, su, fanno vomitare. No, ma io non voglio dire quello, io voglio dire l'ironia. Fanno vomitare, lo dico con ritardo, perché ieri volevo fargliela dire tutta, per questo non mi sono incazzato, altrimenti potevo incazzare tranquillamente anche con Dario Fo, non ho problemi. Ha detto una boiata, una cosa da vomitare, basta, su, chiudiamola, non c'è tanto da discutere. Perché discuti ancora di questo tu? Perché discuti? Perché difendo il diritto alla satira. Ma non è satira! Contro chiunque! Vabbè, Paolo, che vuole ancora? Non ho capito. Ma sto dicendo, l'ironia sulla statura, si faceva i tempi di Fanfani, cioè adesso è pure una roba vecchia. Quanto si è scherzato sulla gobba di Andreotti, su, dai, avanti. E poi l'ultima cosa, Pronto? Sì, pronto, siamo qua, pronto. Si considera il giullare, i giullari avevano una statura bassa, i re, i gerarchi fascisti hanno una statura alta di Fo, è quello un po' il discorso. Brunetta è più giullare di lui, così come il villaggio, lui può essere, se Bertoldo è giullare, lui può essere Cacasenno. Ho capito, Raffaele D'Avellino, buonasera Raffaele. Sì, salve, buonasera. Sì, allora? Senta, no, le chiedevo, ma lei ha cambiato idea sul fatto di aver votato Grillo? Oddio, con sta storia. Ragione, ma non è che uno cambia idea dopo 10 minuti. Ho votato Grillo per 1001 motivi che ho spiegato e che spiegherò e che non mi interessa più di spiegare. Uno poi, alla fine, quando si andrà a votare un'altra volta, fa i conti con se stesso, con quello che ha fatto prima, con quello che vuole fare e sceglie. Non è che adesso uno, non sono, come ha detto prima Villaggio, volta Gabbana in 2 secondi. A parte che non c'è niente, non c'è nessuna Gabbana da votare in questo caso. Hai votato nella tua vita tutto l'arco costituzionale. Sì, allora qual è il problema? No, per carità. Tu hai votato solo a sinistra, io no. No, per cui io ho voglia, votato anche la rosa nel pugno. Perché che era a destra quella? Non lo so. Cioè, ho votato fare per fermare il declino. Quando l'hai votato? L'avrei votato, l'ho dichiarato. Ho detto, avrei votato fare per fermare il declino. Fare per fermare le lauree. Raffaele, allora? No, era questo, perché poi dopo non riesco a capire nel suo atteggiamento successivo se c'è apprezzamento, c'è. Io faccio un altro mestiere, non faccio il propagandista, non faccio il militante di Grillo, insiste ancora. Mauro da Milano, chi è che squilla? Non so, scusa. Mauro da Milano, Mauro. Ah, sì, aspetta. Si capisce più niente. Pronto? Aspetta un attimo, che c'è il tonico. Mauro? Ma chi è? Mauro? Imelde da Bergamo, la signora Imelde. Imelde da Bergamo, sì, buonasera. Prego, signora, prego, sì. Ma guardi, mi trovavo in macchina e ho sentito il signor Villaggio. Che stava facendo in macchina, signora Imelde? A casa, rientravo da un viaggio di lavoro, naturalmente. Un viaggio di lavoro. Dove è andata? Imelde? Milano-Bergamo spesso. Milano-Bergamo, sì. Vede, trovo a volte un po' forte. No, una fatica, nel senso che l'autostrada è molto trafficata. A volte no? Simpatica. Quello che volevo invece dire al signor Villaggio riguardo a quanto ha detto sulla nostra ministro Cancellieri, in primis si dovrebbe guardare esteticamente lui e vorrei anche dire che l'abbiamo anche fatto notare che non è una bellezza oggi, se l'Italia oggi è in questo pantano è perché per troppo tempo, troppi anni, i signori uomini hanno guardato e valutato le persone solo sull'aspetto estetico, non sulla capacità, l'intelligenza e la professionalità. Adesso non la metta sugli uomini, sulle donne. Ha fatto una battuta Villaggio sulla Cancellieri, spesso ne fa anche di sguaiate, ma è Villaggio, glielo si concede, insomma, no? Parlava evidentemente. Villaggio lo si concede. Ma si Dario divertiva, Fo, no, Dario Fo era incazzato come una bestia. La logica ha i suoi diritti, diciamo, in genere. Ma non è così, dai, mettetemi una canzone per uscire da signora Imelde. Grazie signora Imelde, buon ritorno a Bergamo. Si chiama Imelde lei? Imelde, sì, no? Imelde, come Imelda Marcos, no? Sì. Non è così. La subcomandante, Maurizio, sempre da Bergamo. Buonasera, Maurizio. Lei? Vada. Stavo ascoltando lei a Parenzo. Ma Radio 24, sì, in tempo di crisi, vi paga o dovete fare voi il gettone di presenza per andare in onda? Sì, no, paga, lei pensa paga di farlo spiritoso con questa cazzata che ha detto, ma non ha riso nessuno. No, no, rido io perché praticamente per mettere in onda due come voi, cioè per Radio 24 non è che ci faccia bella figura. Faccia una protesta. Su questa ragione. Faccia una protesta ufficiale. No, no, lo sto dicendo a voi, praticamente Radio 24, siccome praticamente in tempo di crisi, piuttosto di mandare in onda, magari vi paga anche e dovrebbe usare i soldi. No, io sono pagato dal PD. Da chi? Dal Partito Democratico sono pagato. PD, cioè il PD paga Radio 24 e poi Radio 24 vi paga, però cioè, gira lei, lei è fortunato che trova qualcuno che la paga, Parenzo. Perché, sì, per ora sì. Difatti, guardi, è come andare a farti benedire intanto che la pagano. Farmi benedire magari no, se mai vado da qualche... Ma lei da, che da fa di mestiere, professore? No, no, non sono che professore. Che fa di mestiere? No, no, non sono professore. È professore di, come dire, di morale, di etica, no, eccetera. No, che no, fa di mestiere? Un impiegato normale. Impiegato dove? Ha timbrato il cartellino? 1500 euro al mese, però praticamente queste cagate qua che sente da... E vi pagano anche per mettere in onda le cagate? Esatto, ma sa, lo sai qual è la goduria pazzesca? Che ci pagano un sacco di soldi per dire queste cose qua. Invece appunto, lei la pagano appunto poco per fare un lavoro molto noioso. No, ma adesso lo insulto. Adesso lo insulto. Adesso lo insulto. La differenza vera, Maurizio, adesso mi cazzo, no? Perché sono incazzato. No, sono incazzato. Lei la pagano poco per fare un lavoro in cui probabilmente si fa due coglioni così. Invece a me mi pagano tanto per divertirmi come un pazzo. Ma ha capito qual è la differenza? Io capisco che lei è frustrato per questa cosa. Ma va, è gente frustrata. Siete voi io sono qui a lottare per lei e per i suoi diritti invece. No, Parenzo, sono guardi, qui lei per lotti, lei lotti per Maurizio, amici, lei non è un fannullone, venga con noi della CGIL, no, i pensionati, no, no, no. Io sono qui per tutelare i suoi diritti di lavoratore di Bergamo, delle poste, dove lavora lei? Esatto, ma lei cos'è, amico della Fornero? No, Fornero no, sono allora, amico della Camusso. Sì, ma neanche tanto poi. Sì, vabbè, ma... allora che vuole ancora Maurizio? Oltre a dire che non dovremmo non dovrebbero pagarci, eccetera. No, che, siccome che vuole dire anche ancora? Villaggio, me l'ha chiesto anche Villaggio, sì. Volevo saperlo anch'io, no? Praticamente se vi ma pagano. Scherzava, se lei non l'ha capito, pazienza. Sì, io ho capito. Sì, vabbè, comunque andate avanti, ancora faccio a farvi pagare che io vi ascolto. Tanto praticamente mica c'è gente che di un masochismo pazzesco, cioè, no, ma allora lei è tecnicamente diverso, pazzo, però. Ma lei si no, fa no, scusi, lei si fa frustare da sua moglie a casa perché è il tipo lei da farsi frustare, belle scudisciate, tre volte al lei giorno sembra... praticamente metto sulla faccia di Parenzo. Mamma, ma il gusto dell'orrido lei, eh? Oh, sì, chiami Dario Argento, abbiamo la borsa, credo. La borsa, torniamo subito, se ne vada. 800 24 00 24, borsa. La Zanzara. Il grande Giorgio Napolitano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. E nel PD, giocando agli indiani, hanno tirato le frecce a Bersani. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. E che siete morti. Giorgio Napolitano, uno dei giornalisti al soldo di Berlusconi, e Paolo Liguori. Si vogliono rifare. Maurizio, pigliano più soldi di me. Maurizio è quello Maurizio, di prima, l'impiegato che avete trattato come e una allora sorta merda. Lotta di lunga durata. Esatto. Lotta ma con di voi popolo no. Ma con voi no. Con lotta questo continua, Sara. Ma con voi scusate, no, con questo grande pubblico. Loro sono grumini. Maurizio, avevi ragione. Prendono un sacco di soldi allora per dire un sacco di cazzate. però c'è pure quello del casello che dice vogliamo ridere al casello. Esatto. Come fa la canzone di Giorgio? Ti piace? Meno male che Giorgio, cioè, sei un fan di Napolitano. D'altra parte eri comunista. Ma certo, sono un fan di Napolitano. Mai Rigoni. Stato comunista, però lotta continua di sì, Napolitano invece era comunista, però si dimostra un grande italiano. Un grande italiano, ma si vede che per essere un grande italiano ci vuole una radice e lui ha conservato questa radice. Quelli che hanno perso le radici non sono più nulla. È così. Lui ha conservato quindi questa è un comunista per bene. Ma insomma io non lo so se è un comunista, se è per bene, certo è grande, li ha messi tutti in ginocchio, lui e Berlusconi insieme è stato quanto, più quanto lui. È goduto per Berlusconi che adesso è tornato a dare le carte al tavolo. Ma è tornato a dare carta, sta fuori in America a Dallas, seppure hai visto mezzo addormentato, hai visto Berlusconi? Beh, ha fatto in 48 stanco. Ore quello che un umano fa in 36 settimane, cioè che vuoi dire? È andato a Dallas, ha discusso con Bush, Carter, Clinton, un superuomo, è un po' un Highlander, un Highlander. Una bella definizione abbiamo trovato, un Highlander. Però Highlander. E dunque è consentito addormentarsi così, no? Avere un attimo di assopimento. Ma l'Highlander non dorme mai. Qualcuno ha detto che abbiamo fatto una figuraccia internazionale pazzesca con Berlusconi così mezzo mica assopito sotto il sole. Mica rappresenta niente di ufficiale. Beh, capito, è sempre Berlusconi, cioè non è che balla, non è che Paolo Liguori che balla insieme agli statisti. Poi qualunque. Quando tu pensi che gli levi il portafoglio di tasca, si sveglia, zacchete. Ah, perché lui sta attento al denaro. Per esempio, sta aspettando questa sentenza su Mediaset della Cassazione di giugno con grande vabbè, attesa. Ma quella arriverà dopo la prescrizione. Bella botta. Dopo arriverà. Come dopo la prescrizione? Prima ci sarà la prescrizione e poi arriverà la sentenza. No, ma quella sui soldi di Mediaset. Dopo la prescrizione. Ma se lo sapete che lui è uno di quelli che ha fatto fare il servizio sui calzini di Mesiano? Come no? Sì. Ma proprio però, ricordiamo l'episodio. Guardate ragazzi, per dire le balle che racconta. Vorrei fai? Solo che farvi vedere. Lo faccio vedere, ragazzi, hanno vedere? Diritto. Ma dove vai? Questi sono i miei calzini. I calzini gallo mostra. Ma vi pare a voi che io potrei fare i servizi sui calzini degli altri colorati, sì, ma bravo, no, scherziamo, ma i calzini agghiaccianti, che calzini c'è? Gallo, chi è agghiacciante? Messiano. Ma è una po' scena, ma che cosa, hai vestito tutto preciso, tutto ma sono bellissimi, ma che dici, calzini Mesiano, sì, ecco. Ma gallo però colorati di questi qua, no, beh, non sono male effettivamente, non sono male, tu eri contrario a questo su Mesiano, eri contrario, non lo sapevo neanche, non lo sapevi, adesso non conti più un cazzo, quando l'ho visto ho detto ci occupiamo dei calzini, ma cominciamo dalla testa, non dai piedi, cominciamo dalla testa, chi l'ha fatto fare il suo servizio, non lo so, ma che non lo so. Non lo so. Non sì. Mi dicono tutto Brachino, quello come si chiama? Ma no, Brachino sarà una vittima come al solito. Ma del sistema, del sistema di della comunicazione. Ma va non bene. Mi danneggia un po' questo Berlusconi che è tornato a Mediaset, no? Che dico? Vabbè, insomma, io non sono. Era meglio che si faceva un po' da parte e quindi Mediaset, perché un po' danneggia questa presenza di Berlusconi ancora in politica. Ma quando? Ma che danneggia? O no? Danneggia Mediaset. Ma quando? Io lo chiedo a secondo Liguori. Te danneggia? Ma beh, un po' siamo noi che facciamo le domande, mica tu. Ma lo dico poi. Ma voi mi danneggia la presenza di Squinzi? No. No. Allora vai, ma noi lo veneriamo quotidie. Ma non mi danneggia la presenza di Squinzi? No, ma noi lo amiamo. Ma io pure, è la stessa cosa. Cioè, per me è del massimo, altro che questi sindacalisti della CGIL. Siamo mossi dal medesimo impeto. Ma tu lo ami, Berlusconi? Quanto Squinzi? No, ma gli vuoi bene? Ma gli voglio bene, sì. Quanto gli vuoi bene? Ma gli voglio bene in una maniera che non vi so descrivere. Cioè come? Non fisica, non carnale. Se la descrivo qui per radio, la svilisco, la svendo. No, ma in che modo? Cioè, quando lo vedi, che tipo di, cioè, hai un modo di affetto, lo vuoi toccare? Non mi vuoi far diventare Fede? No, la radio c'è già Fede, lo sentite quando volete, non mi fate diventare Fede, io sono ancora un'altra cosa, un po' più vispo, anche un po' più giovane direi. Cioè hai rincoglionito Fede ormai? No, dice. Non l'ho detto, ho detto questo, voi dite questo adesso sempre, ecco. No. Omar Dabbè, fammi sentire Omar Dabbè, ma già mi sono scocciato. Ma Savino adesso dopo te lo io chiamo, io sono venuto per Savino, adesso te lo chiamo dopo. Chiamate Savino. Omar Dabbè è Savino, il grande intellettuale, lo Sigmund Bauman della zanzara, esatto. Signor Savino. Anche mio, eh? Omar da Bergamo. Omar da Bergamo, non facciamo troppo casino, sennò la gente non capisce. Omar da Bergamo. Pronto? Meno male che dico io di non fare casino. Omar da Bergamo. Vada. Pronto, Omar. Siete? Sì, vada. Buonasera, Cruciani. Allora... Il programma si chiama La Zanzara, ma mi sembra un moscerino più che una zanzara. Prendere le difese, prendere le difese di Brunetta e dare del coglione a Dario Fossi, deve vergognare. No, io ho detto non è che è un coglione in assoluto, io ho specificato quello che ha detto, per quello che ha detto è un coglione secondo me. Non era ironia, non era satira. Il lettore del Movimento 5 Stelle. E che cosa c'entra, genio della musica? Cosa c'entra? Omar, mi fa diventare pazzo. Cosa c'entra questa cosa? Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Dario Fo è stato proclamato Dunque per come si chiama? Per la proprietà transitoria. Sì. Omar, senta un po'. Qui... Oh, Marzetta, un po', qui dobbiamo dire grazie a Crociani. Con questa sua dichiarazione del Movimento 5 Stelle che ha fatto a suo tempo, ha ucciso il Movimento 5 Stelle. Ha fatto in modo che il Movimento fosse presente quasi in tutte le trasmissioni, anche per contestarlo. Se no sarebbe stato estraneo. Loro non parlano, per fortuna che Crociani c'è. Meno male. Vabbè, questa è una sviolinata di cuori. Grazie, Dino dalla provincia di Roma. Dino, provincia di Roma. Allora, a proposito di Dario, sentite? Sì, la sento, grazie, dica. Grazie. A proposito di Dario Fo, io credo che fosse però ironico, nel senso che parlava di statura. Non era ironico, politica. L'avete sentito tutti, c'era la gente qui, c'era la gente, non era ironico, era ironico. Dario Fo, sì o no? Risposta, sì o no? Secondo me parlava di statura politica, non di statura. Qui c'è la dittatura. Parlava di statura politica. Ma a proposito di quale statura politica? Ha parlato di seggiolino e di scalette, su, dai, non faccia. È satira, ma non sia ridicolo. Perché la statura politica, vabbè, questa è la mia opinione. Ma non sia ridicolo, su, ma non è la sua opinione, lo sento. Di statura politica, posso dire una cosa? Il signor Citati, come dite voi, il signor Citati, oggi ha messo insieme tutte le dichiarazioni sul suo blog di tutti i dirigenti del PD che dicevano fino a una settimana fa mai con Berlusconi. Sì. È interessante quella lettura lì. E vi lascio, a proposito sempre di statura politica, dicendo che la signora Finocchiaro, quando qualcuno protestava, ha detto che vogliono questi signori. Ecco, forse il PD potrebbe riflettere su quelle parole per capire come mai la gente non è tanto contenta delle decisioni dei vertici. Credo che se avessero fatto un sondaggio il 92% avrebbe detto votate Rodotà, vabbè, presidente, e fate un governo lì. Che ne dici? Io lo dico subito. No, ma non faccia il cretino col signor Crociani, cioè, va bene, lo può anche fare, ma mi scivola addosso. Il punto è un altro: il Presidente della Repubblica non è che si fa con i sondaggi. Cioè non si fa con i sondaggi, si fa in Parlamento. In Parlamento esiste una cosa che si chiama sangue e merda. La politica non è gli accordi trasparenti, eccetera. Sono i sotterfugi, i traditori, i franchi. Ma la base qual è la base? Contano solo le elezioni. A me fa impazzire questa cosa. La base. Si ascolta. Ma come l'ascolta lei la base? Qual è? Ci sono 8 milioni di persone che votano PD, non è che c'è solo la sezione di Quarto Giaro. Non c'è più la base. Hanno fatto una legge che conta solo il segretario, la base non c'è più. Quando vedo quelli che vengono e dicono i miei elettori, ma chi sono i tuoi elettori? Non ci sono i tuoi elettori, gli elettori votano il tuo partito e il tuo partito ti manda là, non ti mandano più lì i tuoi elettori. Ma al di là di questo la base è inconsultabile, perché ci sono 8 milioni di elettori. Allora voglio chiedere subito Liguori una cosa, ma è vero che fate fare un programma la sera, un talk alla signora Barbara D'Urso, un talk di politica? Non lo so. Ma lo farebbe bene Ma adesso lo sta facendo così bene Del Debbio, è partito da poco, già sta facendo il suo molto bene. Difficilmente potresti dire male. Difficilmente ha fatto più della Gruppe, al terza puntata già figurati come sta andando bene. Sulla sua settimanale sta andando bene. Ma è vera questa cosa o no? Potrebbe farlo, no. Potrebbe farlo benissimo, potrebbe farlo chiunque, potrebbe fare Perfino anche noi. Ma lo faceva Parenzo in un paese. Non può farlo la D'Urso, in un paese dove la faceva la Parenzo. Ma pensate, ma che la D'Urso fa qualunque cosa, chiunque di quelli che qui di fronte lo potrebbe fare. Ma non è così abbastanza. Ma magari a coppia. Ma Berlusconi le fa ancora queste riunioni del lunedì insieme ai direttori per decidere un po' la linea, la strategia? La war room ad Arcore, non c'è più la war. Si chiama come Churchill. La war room ad Arcore, non c'è più. Non c'è mai stata. Ma come non c'è mai stata? No, ma no. La Repubblica lo ha scritto il piano Delta. Il massimo che può fare Berlusconi è una colazione. Una colazione. I direttori magnano, perché i direttori magnano. E non sono quello che mangia di più. Ma tu sei andato qualche volta allora? Le colazioni di Arcore. Sono andato qualche volta. A pranzo, a colazione. Che succede? Pranzo si dice colazione. A nord. Perché no, dappertutto c'è la prima colazione che sarebbe il breakfast. Breakfast in the morning, anzi diciamo in inglese. E poi c'è la colazione che sarebbe il pranzo. Poi? E poi basta. E poi che succede? Ma mangiate qualcuno basta, poi dirà delle direttive. Qualcuno no? Pende dalle labbra del capo, no? Cioè il verbo. Insomma, anche con qualche frase, no? Ci sono moltissime. Puntate su quest'altro. Moltissime barzellette. Ah, delle storie. Poi dici una barzelletta. Ma non me ricordo neppure una perché mi sono sempre uguali. Sono quelle tre lì sempre che girano. No, sono moltissime, però sono sempre sullo stesso tema. Anche un po' noiose, ripetitive, non fa ridere. fa più ridere. No, Berlusconi quando racconta le barzette fa ridere. Fa ridere, fa ridere. Perché fa tutte le voci, dicono anche, no? Fa, fa i personaggi, cioè riesce a imitare tutto. Ecco, fa come faceva Fo una volta, non si limitava alla battuta sintetica così, sì. Brunetto e basso. Brunetto ma e tu basso. Condanni Dario Fo per quello che ha detto? Per come l'ha detto? Perché? Perché se proprio lui tu, ma... avesse fatto bene quello che faceva Dario Fo ai tempi di Fanfani, sì. Ci faceva morire da ridere e più o meno il tema era lo stesso, no? Sì. Amintore era la stessa cosa. Ma perché oggi Brunetto non è potente quanto ma Fanfani? Ma da sempre si sono presi, diciamo, anche è politicamente scorretto, però da sempre si sono presi un po' di punta i difetti, sì, fisici degli la avversari. La gobba di Andreotti, scusa. Tu hai ragione su questo. Però il modo con cui si fa adesso spesso è un modo sgradevole, arido, proprio da ma perché che differenza c'è? C'è una grande differenza, perché io ho sentito ai tempi d'oro Dario Fo, ha ragione, lui non si poteva resistere dalle risate. Faceva... È sempre lo stesso contro il potere, è uguale. È lo stesso contro il potere, però adesso c'è un incarognimento in queste cose. È un po' l'ha detto il presidente, sì, ma... Napolitano l'ha detto. Che ha detto? Che c'è un incarognimento nella vita politica italiana, nella vita sociale italiana. No, lui l'ha detto con cattiveria. C'è la stessa cosa che si diceva prima, rotonda, che faceva ridere, adesso si dice con cattiveria per far male, no? Alberto da Milano, fammi sentire Alberto da Milano. Alberto! Buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera. Sì, dica. È il dottor Liguori. Dunque, volevo dire, per quanto riguarda l'intervento di Dario Fo ieri sera, dunque, premetto che il signor Brunetta non è il massimo, per quanto mi riguarda, non è il massimo della simpatia, anzi, a dirla proprio tutta, mi stanco un po' sulle balle, a pelle così, solo per, sì, non lo conosco, sì, solo per averlo visto. Allora? Per quanto riguarda le dichiarazioni di Dario Fo, io userei il termine inopportuno, però se voglio dibattagliare io vorrei dare una quanto ci ha pensato quanto c'ha, scusi signor Alberto, quanto ci ha pensato, certo, per arrivare a dire che sono dichiarazioni inopportune? Ha ragione, perché bisogna effettivamente una cosa da grande riflessione. Se uno ha un artista, ha un intellettuale, ha un genio come Dario Fo, alla fine di una riflessione enorme gli dice tu sei inopportuno, sì, è proprio una stronzata, è un problema, cioè, ha un problema, sì, no, mi perdoni, signor Alberto, lei ha ragione. Ci ragiona, dice adesso che cosa ha fatto Dario Fo, dove ha sbagliato? È stato inopportuno, Dario Fo, inopportuno, eccolo, ci nasce. Alberto, è una risposta così da politico di mezza tacca. Però io voglio politicamente corretto. Io ho telefonato per dire una cosa a lei, perché io, secondo me il suo intervento di stasera è il risultato, secondo me, tecnicamente da vigliacco. Voglio dire, aveva Dario Fo davanti, poteva dire davanti lei un coglione, lei ha detto una stronzata, invece no, ha ragionato, anche lei ha ragionato un giorno, una notte, ci ha pensato per ragioni giornalistiche. Però bravo, sei riscattato con Vigliacco, sei riscattato, ha ragione perfettamente. Ma Vigliacco sarai sei tu. Stato Vigliacco, sei ma stato Vigliacco. Vigliacco non è inopportuno, Vigliacco è netto. No, ma ragazzi, ma state scherzando? Vigliacco, glielo devi dire in faccia. No, io Parenzo le dice in faccia. Capisco la tecnica maieutica di tirar fuori dalla pancia del Nobel la battuta. Però a un certo punto bisogna dire. Io lo dico in faccia, però difendo anche il tu maestro. Tu prendi un sacco di insulti perché le cose le dici in faccia. Ma io sono pagato per invece quello. Lui è un po'. La gente mi deve insultare. Anche prima ero qui a Perugia, uno mi ha visto, ma coglione! Dico, ma scusi, perché? Beh, tanto alla radio glielo dicono sempre. Dico, sì, però scusi. Sì, è vero, questo è vero. Questo è vero, è vero, lo dico. Sempre, sì. Ma uno qui, un ragazzo del FES, ciao Lorenzo, coglione! Ma dico, perché scusa? Pensa che ti chiami. Tanto che ti frega. Pensa che ti chiami così, Davide, Lorenzo coglione. Sì, infatti, ma perché scusa? Dammi 50 euro. Allora, questo me l'ha dato a 50 euro. Scusi, dottor Cruciani, lei che è uno che combatte, sì, che le piace combattere, l'aveva lì davanti, poteva combattere con Dario Fo tranquillamente, non poteva aspettare un giorno per poi dire ma ho sbagliato, ma un coglione. Scusi, l'aveva lì davanti, non ho capito. Perché non gliela detto davanti in faccia? Ce l'ha incupito, con questa cosa ce l'ha incupito, stare perché ce l'ha incupito, a noi serve Vispo, scusi, ce l'ha incupito, è vivo. Io non mi sono affatto incupito. Ti ho lasciato parlare, ti ho lasciato sfogare. Ti ho lasciato dire le vostre cose. Vabbè, hai sbagliato, si può dire. Ho sbagliato. È a tutti evidente, è a tutti evidente il motivo. Si può dire, ripeti con me. Una volta. Facciamo tutte e tre. Facciamo una volta. Uno, due, tre. Ho sbagliato. Grande Zanzara. Ah, yeah, yeah, Zanzara. Vabbè, dai, via. Grazie, grazie Alberto, grazie. Vai, grazie, vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire, ma che fastidio, che fatica sopportare di notte. Cosa succede nel Partito Democratico? Lo so che è una cosa che non interessa, come dire, Savino, non interessa. No, Savino dov'è? No, adesso quando Savino, mi vuoi chiamare, io sono sempre a tua disposizione. Oh, sì, lo so, poi ti chiamiamo, più avanti ti chiamiamo. E io vi voglio bene, come dice, io li ammazzo tutti, ma poi li voglio bene. Cornu. Dice, meno male. Corri tutte che non sono altri. Questi sono dei cornuti. Cornuti. No, però. Moderato, Bauman, Sigmund Bauman. E con noi una persona molto seria invece, non, con, non come noi che siamo dei cialtroni. Ah, meno male. Un magistrato, amici tuoi magistrati che ti hanno fatto pagare un sacco di soldi. No, non ho mai pagato. Ma, media se ti ha pagato sempre Berlusconi, beh, te credo. Il senatore Felice Casson, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come sta, dottor Casson? Io sto bene, la situazione è un po' meno, mi pare. Lei ha maneggiato grandi dossier nella sua vita da magistrato, ha fatto inchieste importanti, il petrolchimico. E beh, ma chi se ne frega adesso? Scusa, aspetta, devi sempre ricordare queste cose, non stiamo parlando delle sue inchieste. È una vita passata, giustamente. Inquadriamo il personaggio. No, ma l'ha detto in un altro modo, cioè io ho detto chi se ne frega, a te ovviamente, non al senatore Casson, e lui ha detto è una vita passata. Io voglio capire una cosa, senatore Casson, perché come sa ci sono delle persone che probabilmente non voteranno la fiducia al governo Letta. La sua posizione qual è? Cioè, se per esempio entrasse al governo Alfano, lei voterebbe la fiducia? Ma guardi, io del futuro mi pare così. Non possibile parlare, nel senso che voglio vedere qual è la lista dei ministri, quale sarà il programma di governo e poi decido che cosa fare. Sì. Vabbè, ma qui c'è un dunque pacchetto. è ancora incerto su che cosa parla. È no, uno di quelli che certo. No, io cioè, sono abituato, diciamo, ecco, visto che parlavamo della mia vita passata, come comportamento, vedo le carte e poi sulla base delle carte decido. Certo, però è anche delle persone, per esempio, se al governo certo. Appunto, se ci fosse, che ne so, Schifani, mi sono fissato con questa cosa, credo. Ma due giorni che sono Schifani. Che il presidente del Consiglio nominato sa benissimo quali sono i limiti di accettabilità per il Partito Democratico. E quindi, secondo lei quali sono i limiti? I suoi limiti, senatore Casson? I paletti di Casson. I dei nomi. Voglio vedere i nomi. Io senatore. No, ma non tanto non lo dico. Senatore, c'è il compagno di cuore, un attimo. Il presidente ha detto che bisogna per forza dare la fiducia a questo governo. Sì. Bisogna andare avanti. Non ci sono limiti perché è garante il presidente. Questo lo vogliamo ricantare? Meno male che Giorgio c'è. Noi siamo su questa posizione. Al massimo rispetto al Presidente della Repubblica, però ritengo di avere anche una mia capacità di autodeterminazione. Però io voglio capire, se no caso, mi scusi, insisto, ma sa, sono un po' rompicoglioni da questo punto di vista. Cioè, sì, beh, ma lo sappiamo. Sì, lo sapete benissimo. Apra un fascicolo. No, non può più, non può più. Faccia aprire un fascicolo. Ma non costituisce reato rompere i coglioni. No, ecco appunto. Questo è buono. Detto da lei poi, senatore Casson, la parola rompicoglione assume tutto un altro significato. Sì, è anche più gentile come cosa. Sì. È più gentile. Ma me lo dica ancora per cortesia, perché no, è bello. Le cose reiterate non vanno bene. Vale una volta e basta. Senatore Casson, cioè, è anche un problema di nomi, sì o no? Cioè, se ci sono quali sono per lei i nomi indigeribili? Sì. Un paio, no, ma non è il caso di anticiparlo, perché il lavoro del Presidente del Consiglio nominato è già molto complicato. Credo che non sia il caso di complicargli ulteriormente la vita. Ma non complichiamo, ci sarà qualcuno che non vuole assolutamente vedere. Io non la voglio complicare, gliela complicano già in tanti. Vediamo chi saranno queste persone, vedremo soprattutto il contenuto. Io so, perché conosco il documento col quale siamo andati alle elezioni, la carta degli intenti, so che cosa ho detto in campagna elettorale, so che cosa ho detto durante le primarie che ho vinto a Venezia. Ormai è tutto finita quella roba là, però senatore Casson, mi scusi se io lo dico, ormai quella roba lì non vale più niente. C'è la disciplina di partito, Casson, ma non esiste la disciplina di partito, per cui se il signor Letta alla fine fa quella squadra lì, per disciplina di partito il compagno senatore Felice Casson dovrà votare quella squadra di governo. È la disciplina di partito. Vedremo quale sarà la squadra di governo. Allora, lei non ci vuole dire i nomi per lei indigeribili, non ce li vuole dire, perché sono del PD, sarà qualcuno del PD. Magari non ce li vuole dire perché sarà qualcuno del PD. Magari hai visto come sono finite queste elezioni alla Camera? Magari è qualcuno del PD. Ma sicuro qualcuno del PD, non ce li dice. Però scusi Casson, c'è una persona che si chiama Boccia, che è un uomo di Letta, insomma, una persona molto vicina a Letta, che parla già esplicitamente di espulsione dal Partito Democratico nel caso in cui non si arrivasse al voto di fiducia. Cioè, se lei non voterà la fiducia, lei mi sembra ancora una persona incerta, dice voglio sapere i nomi, il programma, eccetera eccetera. Lei che pensa della possibilità di espulsione, di quello che ha detto Boccia? Ma io dico che Boccia non so a che titolo parla, perché dovrebbe leggersi prima regolamento e statuto, e poi credo che abbia assunto dei comportamenti stalinisti che nel Partito Democratico non si possono accettare. Lo vedi? Hai capito? I nomi sono del PD, lo vedi? Cioè lui, se ci fosse Boccia al governo, che farebbe lei? Scusi, no, tanto per capire. Non lo vota. Boccia non lo come vota. Persona, brava persona. Però minacciare espulsioni è un'altra cosa, riguarda il partito e potrebbe farlo soltanto chi ha la competenza dal regolamento per farlo. E Boccia no, non le aggiungo, io su questa cosa sono abbastanza sulla sua linea, le aggiungo che Boccia e altri, quando Grillo cacciava le persone dal partito perché magari non andavano ai talk show, no? E andavano ai talk show e lui non voleva che andassero, era tra quelli, credo, se non ricordo male, insieme ad altri, che dicevano la democrazia all'interno del movimento di Grillo, eccetera eccetera. E insomma c'è una contraddizione, due pesi e due misure da questo punto di vista, no? Ma infatti per questo dico che bisogna che vengano seguite le regole del Partito Democratico. Se le regole le prevedono che ci sia un'espulsione, si segue la procedura e ci sarà l'espulsione, magari qualcuno se ne andrà prima anche, quindi non è detto neanche che sia necessaria la procedura di espulsione. Lei è uno di quelli che nel caso in cui il governo non le piacesse potrebbe andare via dal Partito Democratico? No, ma io non anticipo niente, non proprio voglio vedere le carte, quando ho visto le carte, scusi Casson se io lo dico, di solito nei programmi di governo, lei lo sa bene, no? Ci saranno tutte cose un po' vaghe, alla fine si raggiungerà un grande compromesso. No, le carte in nomi, dice lui. Ma sì, no, le carte dice anche i nomi, il programma che tavola, diciamo. le carte in tavola. Però le dico subito una cosa: Brunetta al governo, che tipo di reazione ha lei? Brunetta al governo delle sue parti, poi Brunetta come no comment, senatore. Senatore, è delle sue parti. C'era qualcuno durante la campagna elettorale che a Venezia diceva che Brunetta non è esteticamente compatibile nemmeno con Venezia. Ed aveva ragione? Chi l'ha detto questo Fuchs? Ma è stato detto. Se lei lo ripete, sì, che ha ragione, allora. È una cosa pubblica. Sia una cosa pubblica, no, il fatto che Brunetta sia esteticamente incompatibile con Venezia non mi pare una cosa proprio pubblica, di dominio pubblico. Per alcuni è esteticamente incompatibile, per altri no. Vabbè, comunque, D'Alema al governo è una cosa che le piace? Ma ministro, D'Alema ministro. Non credo che sarà il governo. Si fa anche il nome suo, ma facciamo la giostra, mettiamo 50 nomi, non mi pare che abbia molto senso. Ma le piacerebbe rivederlo al governo, agli esteri, che sui signor D'Alema? No, io dico, c'è chi dice, chi non dice, non è un problema di piacere, è un problema di vedere le carte complessivamente, perché quando si vedono le carte in tavola si capisce che cosa può fare o non fare questo governo e quindi quali possono essere le conseguenze politiche. Letta stesso, dopo il suo incarico, ha detto non è scontato che si farà un governo. Sì, no, però insomma alla fine il governo si farà, ci saranno dei nomi, è giusto che il PDL metta i suoi nomi, chi vuole, perché non è che il PD può mettere i nomi suoi e il PDL no, perché sennò siamo al razzismo, secondo me, da un certo punto di vista. Va bene, senta, per concludere, i 101 che hanno votato contro Prodi, lei mi dia una definizione, insomma, una sua definizione, come li sono stati chiamati in mille modi, traditori, eccetera, eccetera, lei come li chiama? Ma credo che la definizione di Bersani sia quella più adeguata. Cioè dei traditori, ma non tanto e non solo di Romano Prodi, tirato in questa maniera indegna nella vicenda della soprattutto nei confronti della politica e degli elettori del centro-sinistra. Bene, grazie. Saluti. Pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. La Zanzara. Quando mi vuoi chiamare, Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa in blanco, mañana yo soy stanco. Gino da Genova, buonasera Gino, dica. Gino? Dov'è? Ma che ne so, Mauro da Milano. Mauro. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, e dico di voi, sì, che ha detto una cosa seria. E dice che voi siete delle persone cui dobbiamo essere grati perché siete il giornalismo buono, ve lo dico oggi durante il festival dei giornalisti, perché sì, siete un po' come le due massaie che fate mille cose in una volta sola, avete la permanente, avete un grembiule fiorato, mondate il bucato, qualche volta stendete e lavate le gheppier, qualche volta i pannolini, qualche volta ci sono le lenzuola. E lei sta bene, sì. Ma qual è la metafora? Ma l'hai capita tu la metafora? No, sì, no, sì, però adesso non è vero. No, diciamo per una cosa molto seria, però, per sentire. Ecco, sì, ecco, era un giornalista, io sì, gli ho voluto bene perché l'ho conosciuto quando abitavo a Roma e ho conosciuto l'integrità della politica. L'altra sera avete chiesto chi meritasse dalle esequie un funerale veramente clamoroso. Ebbene, sto parlando di un grandissimo uomo e parlo di una statura politica unica, Teodoro Buontempo. Vabbè, siamo stati il 24 di aprile. Teodoro Buontempo. Teodoro, ma che è successo? Ed è stato veramente una figura esemplare. Walter da Roma, Walter da Roma, buonasera, è caduto qualcosa. Walter da Roma? Buonasera. Sì, vada, vada. Allora? Volevo intanto dirvi che mi fa piacere intervenire perché vi ascolto tutte le sere tornando dal lavoro e vi trovo veramente molto perspicaci e divertenti. Sì. Quindi, vabbè, poi... ma in particolare volevo parlare del diciamo della di come il Movimento 5 Stelle si sta muovendo in questo momento. Come si sta muovendo il Movimento 5 Stelle? Non ci faccio la lezioncina, però con questa voce così bassa, secondo me, perché certo, mi annoio, però. Sì, sì. No, assolutamente. Sta tentando ovviamente di mantenere le promesse che ha fatto all'inizio. E non ascolta, diciamo, e non apre il dialogo con nessuna delle forze politiche, ovviamente. Perché cioè, lei dunque altrimenti... è uno di quelli delusi dal Movimento 5 Stelle perché è entrato in Parlamento e poi non ha fatto nulla, non si è accordato con nessuno? No, assolutamente. Secondo me bisognerà vedere quello che farà nel momento in cui il Parlamento entrerà, diciamo, in funzione. Ma veramente. Il Parlamento è già in funzione, bisognava prima forse fare un governo, poi adesso abbiamo fatto il Presidente della Repubblica. In questo momento, dice Letta, quelli dei 5 Stelle, i vostri voti sono congelati. Lei capisce il significato della parola congelati? Capisce? Sì, assolutamente. E sono congelati secondo lei sì o no? Lei chi ha votato? Grillo? Sì. Bravo. Secondo lei sono congelati sti voti o scongelati? Cioè li stanno usando oppure no? Ancora no. Ancora infatti, no, ma infatti di quello si parla, del fatto che fino adesso questi voti non li hanno usati. Esatto. O no? Esatto. Infatti vanno valutati, abbiamo perso, diciamo, due mesi sempre e loro sono ma quello va valutato, certo. Per adesso, diciamo, non sono stati molti utili, forse anche per loro, hanno perso in Friuli Venezia Giulia, i sondaggi gli danno il leggero calo, però vediamo, c'è tempo. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. E allora, Vittorio, basta. Siamo venuti qui a salvare questa infame trasmissione, ad occupare le antenne della zanzara. Vittorio, noi di Radio Capital del TG0 solleviamo un po', basta, lì che litiga con uno del 5 Stelle a Cruciani. Applauso. Quindi, del pubblico per Radio Capital, perché no, abbiamo applauso per Radio Capital del TG0. Ci hanno cacciato. Ci hanno cacciato. Fondato il Cruciani Liberation Movement. Abbiamo finalmente liberato questa radio. Loro sono venuti a rompere i coglioni a noi alla Radio Capital e noi restituiamo il favore. Senti però un profumo di Confindustria in questa sala. Proprio, no? Profumo di De Benedetti, lo sentiamo, profumate di De Benedetti, mamma mia, caro Parenzo, mi scusi, mi perdoni. Allora, noi alla diretta del TG0 avevamo delle seggioline pieghevoli fantoziane, qui poltrone di cuoio, ma la Confindustria, viva la Confindustria, caro, saluto a Squinzi, al Sassuolo che va in Serie A, io gli editori li sento tutte le volte, Mapei, forever. Ti piace Squinzi? Di sì. Moltissimo Squinzi. Sì. Io sono tifoso del Modena, mi sta fottendo. Ma poi è milanista, Squinzi. È milanista in realtà. Vabbè, Squinzi. Ma quello lasciamo perdere. Ma ti piace più Squinzi o De Benedetti, ad esempio? Guarda, quando li metto uno di fianco all'altro, non so che. che scegliere, sono talmente imbarazzato. Potremmo fare i capi, vi presto dei Benedetti, voi mi prestate Squinzi e facciamo i magnifici conduttori di TG0. Grazie a tutti, Vittorio Zuccoli. Aspetta, mica puoi pensare di cavartela così. Grande cameo di Zuccoli. Vuoi un'opinione sul difficile momento del paese? Il ritorno di Berlusconi al governo, perché di quello si tratta, no? Certamente, proprio a tutti gli effetti. Pare addirittura Brunetta. Cioè, tu ti rendi conto, no? Brunetta occupa mezzo posto, però sì. Beh, no, non fare più di così. Anche tu così, Vittorio. No, dai. Ma vabbè, ma ha fatto una constatazione. Hai sentito che ha detto Dario Fo ieri da noi? No, hai sentito? Hai sentito? Il futuro presidente della Repubblica, Dario Fo, quello che aveva 900 voti alla primaria del Quirinale. Meno di Prodi, però, Sì, ma ha detto che non lo voleva fare. Non lo voleva fare. Non lo voleva fare, però anche tu dici che occupa mezzo posto. Sì, occupa mezzo posto e soprattutto io sono favorevole. Ma ho letto un tuo tweet che ha detto che ti fa orrore l'idea che ci sia Brunetta, no, Schifani, eccetera. Allora, attenzione, nella mia qualità di cittadino mi fa orrore. Nella mia qualità di giornalista, più casino c'è, meglio è. Brunetta al governo vuol dire un casino quotidiano. E questo è vero. Poi introduciamo i tornelli. Come è questa Radio Gabbia non le dice mica. No, infatti non le dice. È che l'ambiente, è l'ambiente diverso. Come si sente Brunetta? È cretino. Bisogna mettere i tornelli da è fannullone. Cretino. E poi comunque voi arrivate con le colle Mapei e rincolliamo tutto. Rincolliamo, non c'è problema. Tutto. Oh, senti, vabbè, grazie, però io dicevo un'altra cosa. Questo Berlusconi che torna al governo è un bene o un male per il Milan, per il tuo Milan? Dunque, allora, dal punto di vista tattico, se noi passiamo dal 4, ma che cazzo me frega a me? Ma non me ne importa niente. Io sono un tifoso felice del Milan, tu non hai capito, Cruciani. Perché se il Milan vince, mi ricordo di essere milanista. Se il Milan perde, fottono Berlusconi, quindi io vinco comunque. Io non posso mai perdere quando gioco al Milan. Senti, ma esiste o no il partito di Repubblica? Il famoso partito. Per chi fa il tifo, ah, il partito di cui tanto si parla. Perché voi siete un po'. Tu mi siete un po' in difficoltà. Io vi sento. Ma lui sta in America, sta Zuccone, che ti prega. Vi sento in realtà. Se vi sento un po' incerti perché. Ci senti, ci copi, ci imiti. Ah. Ogni tanto tutti copiano tutti, come tutti sai. Tutti copiano tutti. Però come c'è cioè, come Renzi, un po' Renzi, un po' Rodotà che vostro era stato vostro. È stato vostro editorialista. Tu avete avuto un po' di casini anche là. Come è no? stato che l'abbiamo cacciato via? No, Allora ti rispondo coi fatti, perché noi rispondiamo alle insinuazioni con i fatti. Nel mese di giugno Repubblica porterà l'intera troupe a Firenze per fare il festival di Repubblica. Lo sappiamo. Chi è il sindaco di Firenze? Renzi. Bravo. Ormai avete sposato la causa di Renzi. Il tuo editore diceva che era come Berlusconi. Il mio editore. Chi è il mio editore? Cioè De Benedetti. Una volta disse che era come Berlusconi. Ma non lo sai che non l'è più accettato tutto. È uguale. La notizia è che il figlio di De Benedetti è renziano. Questo è il punto. Cioè Zucconi dall'America ci sta dando questa notizia, dall'America, cioè però ora a Perugia momentaneamente, ci sta dicendo che il figlio di De Benedetti, dell'ingegnere, che noi riveliamo, massima, attenzione, non assumere queste pose che mi fai pensare a Clinton nella Casa giornalismo Bianca. In ginocchio. Fai pensare a Clinton alla Casa Bianca, sono tempi passati. Alzati, Parenzo, alzati. Sono già in piedi. Ecco adesso. No, allora, guardate, sono le famiglie italiane, perché i Letta non sono forse, non coprono tutta l'area. Quindi ogni famiglia che si rispetti, guarda, mio padre, allora, mio padre era deputato della DC, molto mio fratello era iscritto al Partito Comunista. Molto di bravo di te, lo sai. Certo, io lavoravo per La Notte, che era un giornale fascista. Sempre. Mio padre diceva: comunque vada a finire, uno di noi si salva. Quindi i famosi Paraguru. Un democristiano che lavorava per un giornale diretto da Nino Nutrizio, che come sai era uno di estrema destra. Mio fratello iscritto al PC. Lo stesso, come nella famiglia La Russa. Democrazia in chiesa. Come anche nella famiglia La Russa è uguale. C'è un fratello democristiano. Preferiamo i Letta, più stile, più stile. Grazie, pubblicità. Si fa presto in America. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Bene, Luca da Bari, mica abbiamo finito, 20:11, applauso, grazie! Da Perugia, Festival del Giornalismo in diretta, ultima sera. Luca, dica. No, io volevo dire a Parenzo di smetterla, perché io l'ho riconosciuto. Dovete sapere che io e Parenzo abbiamo fatto circa 10 anni insieme in Russia, nei servizi segreti russi, per destabilizzare. Sì. Parenzo ha 37 anni, quando c'erano sono le 8 e 12, parte l'aperitivo. Che è stato arruolato in Siberia, io lo riconosco. Io sono il compagno Levante. Parenzo, non fa finta di non riconoscere. Ciao, compagno, da Svidania, compagno. Benissimo, no, no. Ciao. Allora, la devi smettere di lanciare questi messaggi segreti del regime comunista per restaurare in Italia questo tipo di sistema. Ormai è tutto superato. Io ti ricordo che abbiamo fatto 10 anni insieme. Tu sei stato infiltrato, sei stato anche 3 anni in Polonia. Ora stai in Italia e stai cercando di ripristinare il vecchio regime comunista. Sì. È tutto finito. Ora due persone con il camice bianco stanno scendendo da una macchina colorata con sopra una luce blu. Guarda, mi stai autorizzando. Tu ripeti segreti, queste cose, segreti, ti caricano su una lettiga e fai una settimana di ricovero qua. Mi fai parlare sì, questo sistema compagno. Comunista. Ti ricordi quando siamo stati in Siberia entrambi? Vuoi dire che bugia? Ma questo è matto proprio. Chi ti ha fatto fare carriera da giornalista? Allora, le cose sono due, caro Luca. O lei sta scherzando, ma non ride nessuno. Cioè, non è una cosa particolarmente divertente, però uno ci può provare anche a fare il comico nella vita, non è che non ci può provare. Lei per adesso ha un risultato abbastanza scarso, però va bene, si può migliorare. O lei è sta facendo un tentativo di comicità, c'è una lunga tradizione pugliese. C'è una lunga tradizione pugliese, oppure è è disperato che chiama in preda a un delirio, cioè, per cui fra poco interverranno i signori di cui parlava prima Parenzo. Per cui, delle cose, scelga tra le due. Chieda a Parenzo quante volte è andato in Russia ultimamente. Ancora, ma non è Scaramella, non è Scaramella Parenzo. Scaramella, lei si sbaglia, non è Scaramella, cioè non è Guzzanti. Poi è l'unico posto della Russia dove è sicuro che non c'è comunismo. Sicuri, può darsi che Parenzo vada in Russia per fare il contrabbando forse, ma certamente non sarà mai stato in Russia. Guardate che Parenzo nel giro di 3 anni prenderà in Italia il potere, diventerà ministro. Ricordatevi quello che vi sto dicendo. Vabbè, io non pensavo che la malattia mentale fosse così diffusa nel nostro paese, però è simpatico, molto simpatico, perché molto serio. Massimiliano da Prato, non voglio, per adesso non voglio ambulanze, ma non, se non la chiamo, non me la devono mandare da Milano. È che la volte la mandano appena sentono casi disperati, loro in automatico, capito, la mandano l'ambulanza. Massimiliano da Prato, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera a tutti. No, ma purtroppo mi è passata l'incazzatura. No. L'incazzatura, davvero. Perché? Perché? Ero incazzato come una bestia con Liguori e rideva, prendeva per il culo. Liguori. Sono tornato perché avevo avuto sentore di questa incazzatura. Guarda, personalmente mi sta molto simpatico, allora che è incazzato, scusa. Però ero incazzato perché prendeva per il culo, rideva mentre parlava l'esponente del PD. Rideva e gli prendeva per il culo. Ridevo perché loro continuavano a fargli la domanda, gliel'ho anche detto, continuavano a fargli la domanda: quali persone ti farebbero votare contro il governo? E continuavano a dirgli tutti i nomi del PDL. Certo. Ora è evidente sotto gli occhi di tutti che quelli del PD votano contro altri del PD, non contro quelli del PDL. Questo è sicuro e provato. Allora io ridevo perché dicevo: ma che gliene frega lui di Brunetta? Lui si arrabbierà. Cioè, stai dicendo Marini. Che stavo facendo delle domande stupide? Questo no, stavo dicendo, vi sfuggiva al particolare che questi si arrabbiano per Marini, per D'Alema. Scusa, invece, maestro, e questi si arrabbiano. Bisognava andare a guardare. Va bene, in casa, grazie. Massimiliano, va bene così? No, va bene, ma l'incazzatura era diciamo che lei è passata su, è passata. Veloce, perché siccome è un atteggiamento che quelli vicini al PDL hanno molto spesso, a me quelli del io sono le ex elettore centrodestra, ho votato Grillo l'ultima volta. Del PDL, cioè quelli del PD mi fanno tenerezza, effettivamente, è un po' ridere. Perché fanno tenerezza? Perché? Mi fanno tenerezza perché si scannano tra di sé, non si rendono conto magari di essere in un partito morto, di essere in un partito che è come il PDL. Effettivamente quello fanno che mi tenerezza molti. Quello che mi fa incazzare come una bestia è che nel PDL ci fosse uno che apre bocca. Non se la prendono con me perché io non le ho votato. Scusi, ma guardi, la cosa più incredibile che riuscite a fare. Aspetta, adesso te lo chiedo. No, non ci credo. Non credo come voi. Aspetta un attimo, questa non è una non credo. Cioè, tu hai votato. Per chi hai votato, scusa? Un po' per uno, un po' per l'altro. Cioè, chi hai votato? Un po' per l'uno, PD un po' per l'altro. Anche PD? No, PD non l'ho votato. No, PD, chi ha votato a queste elezioni? Paolo Liguori. Pannella. No, ma adesso, in queste ultime elezioni. Adesso ho votato uno per Pannella, uno per Grillo, uno per Berlusconi. Per non dare. Ma come tre? Cercare il Senato. Camera e Senato, che ha votato? E Regione, si votava la Regione. Cioè, facciamo... Chi ha votato Zingaretti alla Regione? No, la Regione è il grande rosso di vita, quello che ha impedito. Ah, radicale, cioè, ma non ce ne frega niente, non di queste cose. Chi ha votato alla Camera? Radicale, rosso di vita alla Regione. Alla Camera l'avrà preso la Lombardi, il mio voto l'avrà preso la Lombardi. C'è Grillo, tu hai votato la Lombardi. L'avrà preso la Lombardi. Alla Camera Grillo hai votato? Sì, al Senato. Hai votato la Lombardi? E al Senato Berlusconi. Io se l'avessi saputo prima, io ho votato a Milano, dunque non so chi ho votato. Cioè, forse Crimi, forse ho votato Crimi. No, Crimi, che era a Milano. Ho votato io non sono d'accordo con voi che i voti di Grillo sono congelati. No, ma al Senato. Dopo PDL, al Senato Berlusconi. È un voto intelligente il suo. È un voto di perché giunto. Al Senato bisognava garantire poi la governabilità. Alla Regione Lazio? Zingaretti. Ma quale Zingaretti? Ho votato Pannella, Rosso di Vita. Rosso di Vita, era candidato. È il più grande, è quello che è l'unico che si è opposto ai soldi che ha preso Fiorito. Traffico, quello che l'ha denunciato Rosso di Vita, quello che l'ha denunciato. Chi se ne frega, traffico. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi allora, dopo questa clamorosa rivelazione di Paolo Liguori, uomo Mediaset, fedelissimo di Berlusconi. No, uomo Mediaset, Paolo Liguori è Paolo uomo Liguori. Mediaset, giornalista, fedelissimo di Berlusconi, recentemente ha detto anche che si pente di non avere fatto liberare Sofri e Bonpressi, di non aver contribuito alla sua liberazione. Mi pento adesso, è troppo tardi, mi sono pentito. E che le sentenze spesso sono carta straccia, questo hai detto. Questo l'ha sempre sostenuto, Liguori. L'ha sempre sostenuto, va bene, comunque queste sono cose un po' più serie. Ha detto di aver votato Grillo, anche lui. Perché ha votato? Per il casino. Per il casino. No, guardate, io non la penso come te, che hai detto un attimo fa che Grillo congela i suoi voti. Grillo i suoi voti li sta utilizzando benissimo. Il suo obiettivo era ed è il PD e lo sta sfasciando. Lui non ha un interesse enorme di fare cose per il paese. Si è posto il problema di dividere la sinistra, incunearsi nella sinistra, lo sta facendo molto bene. Ma lo rivoteresti Grillo oggi? Beh, per come sta usando i suoi voti se li merita, perché io non ricordo nessun altro che abbia messo in discussione questo partito dal dopoguerra ad oggi. E tu godi un tutti po'. Gli altri e tu godi. Sono crollati, e ti piace da morire. Anni 90 sono crollati tutti i partiti, tranne godi. Uno, Grillo lo ha messo in ginocchio. E tu che cosa volete di più? Che deve fare uno di più di questo? Cioè il PD lo vuoi vedere distrutto, tu godi come ma pazzo. No, non lo voglio vedere distrutto. Sì, sì, lo voglio distrutto. Rimescolare le carte, ma se tutte le carte si rimescolano e un mazzetto rimane chiuso, evidentemente non c'è gioco di carte pari pari. Senti Paolo, tu che sei amico dei giudici, no? Con cui hai avuto vari contenziosi, no? No. Quante cause hai perso? Perso? Sì, no. Infinite cause. No. Sbagliato. E nell'arco di tutta la mia carriera ho perso una causa in Cassazione, poi le ho vinte. Quanti perché, soldi? Quanti soldi? Quanto è costato? 5.000 euro. Beh, niente. Così poco. Ma sì, ma è una causa di 20 anni. Sei sicuro? Fa. Sì. Sicurissimo. Solo 5.000 euro? Sicurissimo. Ma hai mandato a fanculo qualcuno? No? Cioè, quanto costa mandare a fanculo qualcuno? Ma credo che sia stata la causa in cui... non io, ma ero in trasmissione e io ho sostenuto assieme a Sgarbi che la laurea di Di Pietro era stata presa in modo troppo veloce. Era quella. E quindi hai dovuto dare 5.000 euro a Di Pietro? 5.000 euro, sì. E io voglio capire, i giudici per una cosa vera, probabilmente. No, non ridirlo! Non ridirlo! Poi ci ha pensato Bersani, ci ha ripensato la Campanelli, l'hanno massacrato. Scusami, quello già è arrabbiato che è fuori dal Parlamento. Scusami un attimo, Berlusconi non l'ho detto e la io. Causa di separazione, no? Sì. Separazione da chi? Dalla Veronica Laia. Vabbè, no? Adesso siamo sui fatti privati. 3 milioni al giorno. Quant'è? Io non mi ricordo. 3 milioni al mese. 3 milioni al mese. Non mi infilo 3 milioni al mese euro al ma come giorno. Sono questi giudici? Però guarda, guardate, sbagliate a fare tutto un miscuglio. No, ma come sono sti giudici? Questi della causa di separazione hanno detto e che hanno visto? Hanno visto Berlusconi, hanno visto la ricchezza e si sono incaroniti la miseria. Ma come sono comunisti? Lui una volta disse sono giudici comunisti. Sono dei buontemponi, hanno detto adesso questo gli deve un sacco di soldi, non ci siamo riusciti in un altro modo, non ci riusciamo attraverso la moglie. Appunto, cioè, fa parte dell'accanimento su Berlusconi, punito, no? Non mettete assieme le cose, quella è una cosa tra moglie ma e marito. Ma l'ha detto Berlusconi stesso. Ma l'ha detto lui perché lo riguarda personalmente, ma non vanno messe assieme le cose, no? Scusa, secondo te queste giudichesse... un matrimonio finito male, ne succede. Vabbè, quello che se ne frega. Queste, d'altra parte con Berlusconi è difficile, il matrimonio poteva andare a finire bene, diciamo la verità, cioè, era piuttosto complicato. Però è reciproco, no? Anche Veronica era sposata e finita male. Di che senso? Quando i matrimoni si rompono, finisce mai per tutte e due? Sì. Bene per tutte e due. Sì, certo, ah, beh, però chiaro, io voglio capire sì. se, no? sì. se il voi volete fare anche i matrimoni gay, figura di te che accozzaglia. Che tu non li vuoi fare. Quando ci sono le separazioni sì. dei matrimoni gay. E però, sì, bellissimo. Però abbiamo un personaggio straordinario, gay. Il grande ritorno di Giampaolo Vanoli. Oh. Buonasera, professore. No, ma il ritorno buonasera, e non chiamarmi professore. Te credo. Vabbè, professor Vanoli. Che si è bevuto? Sì, la medicina naturale. Che si è bevuto di oggi di buono? Qualche caccola dentro la pipì? Che ha fatto oggi, professore? Sentiamo il grillino qui, sentiamo. No, smettila di chiamarmi grillino perché non appartengo più ai grillini. Ah, ecco, anche loro hanno un po' di dignità, ti hanno buttato fuori, ti credo. Scusi, andavi lì a fare i cocktail di urina, ti credo. Di discutere. Scusi, sì, entrarmi nel merito della faccenda. Scusi Giampaolo, scusami un attimo, ti do del tu perché ormai ci conosciamo. Siete amici. Non sono ancora arrivato. Bevitori insieme proprio siete. I santi bevitori siete, Cruciani e Vanoli. Sai che feste però, da voi quando mi inviti a cena. Tu non sai, Giampaolo non sai che ci ha telefonato qualche settimana fa un nostro ascoltatore dicendo che dopo i tuoi preziosissimi insegnamenti sul fatto che si può guarire da malattie gravissime bevendo il proprio piscio, la propria urina, se uno lo vuole dire, sempre la guarigione, non diamo illusioni inutili. No, non diamo illusioni inutili, per carità, no, assolutamente. Anche in malattie gravi. Anche le malattie gravi, non c'è dubbio. Cioè, questo qui ci vuol far credere che non solo bisogna bere l'urina, ma anche se uno beve il piscio non guarisce comunque. Cioè, oltre al danno la beffa, capito? Non solo ti devi bere il piscio. Questo è matto, ma la vuoi smettere di chiamare sto pazzo scatenato? No. Il professor Vanoli, che poi fa delle porcherie con la moglie lì, ogni volta racconta queste sporconerie che fa, lo dice alla radio anche, voleva far bere il piscio ai figli. Lei è un criminale, ha capito? No? Anche ai grillini fa schifo. Lei fa schifo pure i grillini. Se stai un po' zitto, ha bevuto anche Pannella. L'ha bevuto anche Marco Pannella. Ma quello era per la libertà. Non ho capito. Nelle proverbi, cioè nei diritti che tu proprio che mi chiami criminali, dovresti almeno conoscere, essendo parte della Torah. Essendo parte della Torah, non deve dare la propria urina agli altri, ma la deve tenere per sé. Oh, benissimo, per cui però cerca di informarti prima di parlare. Ecco, informati Parenzo, informati invece di dire criminale all'amico Vanoli. Però il problema, caro Giampaolo, è che poco tempo fa la cosa sarebbe caduta nel nulla, diciamo, no? Era una lezione di medicina naturale, di alimentazione alternativa, eccetera, eccetera. Esatto. Sempre grida. Però ci ha chiamato un signore il quale ha detto: beh, io ho cominciato a fare, dopo quello che ci ha detto Vanoli, ho cominciato a fare dei ghiaccioli all'urina. Ecco. Hai capito che mondo questo? La cosa, ecco, a un certo punto assumeva ma per sé oppure per gli altri? No, per sé, per la famiglia. Per sé, la famiglia. Moglie poi ce l'ha passata, gliel'ha impedito, o comunque ha detto che non era una cosa. Ma in frigo col ghiacciolo d'urina, ma che schifo, ma che gente frequenta sta trasmissione, signor Cruciani? Ascolta, eccolo il professore, caro Cruciani, eccolo, volevo dirti una cosa. Dimmi, quando una persona soffre di insonnia, se si tiene lì il bicchierino a disposizione quando si alza e si sveglia e non riesce a addormentare, basta che beva mezzo bicchiere di urina e sia tranquillo che si riaddormenta tranquillamente. Oh, attenzione, abbiamo una nuova lezione del professor Vanoli. Ma questo fa schifo. Stai zitto. Contro l'insonnia. Tutti voi, e sono tanti in Italia, nel mondo, anche quelli che ci sentono col podcast o con lo streaming, in tutta Italia. Ma stai zitto, stai calmo un attimo, voglio far spiegare bene. Ma questo ti deve l'urina sul comodino! E vuoi far spiegare bene a uno che tiene l'urina sul comodino? Aspetta. Ma dai! Aspetta, allora, la questione è l'insonnia. Chiunque di voi sia un po' malato di insonnia, giusto, è giusto, professore, scusi. Sì. Chiunque di voi soffra di insonnia, anch'io per esempio dormo malissimo. Il consiglio è quello di mettersi un bicchiere, ecco, come deve essere riempito dal piscio. No, scusi, poi basta poco, due dita. Scusate, per precisare, bisogna avere un bicchiere a disposizione in bagno, quando uno si alza e soffre di insonnia, beve l'urina che ha fatto al momento e mezzo bicchiere, basta per andare. Ma il pappagallo va bene lo stesso. La melatonina rilassa l'organismo perché è una sostanza importante per aiutare il buon sonno. Sì, e che c'entra la melatonina con la piscia, no? Scusi se... Beh, facciamo... la produciamo e la estraiamo dall'urina, e per cui la ribevi e aiuta. Allora, chiunque di voi soffra di insonnia, le istruzioni sono... fare la pipì quando? Utilizzare quale pipì? Quella l'ultima della alla sera? Notte, oppure... Alla notte, quando ti svegli e che non riesci più a dormire, vai e in bagno... E se uno non ci riesce... ti bevi un mezzo bicchiere, ma anche meno... Sì, anche meno, certo, anche meno. Non c'è... Ma poi se ti piace, poi anche, no? Puoi farti un... Però, scusi, un po' di ghiaccio anche, no? Professore, Giampaolo, scusami. Un po' di una spruzzettina di limone. Ma questo è pazzo, dai, ma di che stiamo parlando? Su... Ma è una famiglia, ma è una famiglia disastrata questa, ti rendi conto o no? Dai, ma come si fa? No, però Giampaolo, ma scusa. Che si alza la notte, ma fa anche schifo alle 8:30 prima di mangiare. Tenete il bicchierino di urina. Ma dai, tu sei una persona che non si ama, sei aggressivo. E parli di criminalità al sottoscritto. Devi bere un po' di urina, calmi, perché è un'eccitazione nervosa sopra la norma. Scusi, però Giampaolo, per chiudere, perché sono le 20:28, ha ragione, ha perfettamente ragione. Giampaolo, scusami un attimo, io non ho ancora capito bene però tecnicamente come funziona, perché non ho capito se uno però si alza e non gli scappa, che come funziona? È un problema serio. Normalmente ti dirò che c'è gente che l'ha messa anche nel frigo e l'ha utilizzata durante la notte. Per ma io buoni, certo. Sento sempre di prendere quella fatta al momento. Quella del frigo, per i momenti di magra, è chiaro, certo. Uno è lì. No, momento di vacca magra, vai in frigo e si fa un bicchierino di urina, è normale, no? È bello che lo dice come fosse normale. Cioè, la cosa grave è che uno dice una gag della zanzara. No, Paolo Liguori, te lo giuro. Cioè, la cosa grave è che uno dice, no, è uno dei tanti personaggi della zanzara. È reale questo malato pazzo. Caro parenti, cerca di imparare qualcosa. Invece di parlare a Vanderlei sempre, ma certo, ma ha ragione perfettamente Giampaolo Vanoli. Ha ragione, perché lui dice: se uno soffre di insonnia o con l'urina conservata ghiacciata, diciamo, che funziona meno di più quella, oppure facendo l'espresso. Quella la notte, uno si riaddormenta subito. Lei me lo garantisce? Sì, in quasi tutti i casi. C'è insonnia che tende a scomparire nel giro di qualche settimana se lo fa regolarmente tutte le notti, perché è la melatonina che noi secerniamo che viene riciclata con l'urina, oltre alle sostanze cicatrizzanti e neurorilassanti, ai nutrienti e di minerali che ha l'urina propria, per cui la assimili immediatamente, oltre a un migliaio di sostanze omeopatiche. Impara. Sì, no, lo dicevo a Parenzo di imparare. Va bene, grazie. Deve andare un po' a scuola, poverino. Sì, ma infatti non c'è dubbio. Grazie a Giampaolo Vanoli, grazie per questa lezione. Grazie. Che devo fare? Lo devo ringraziare? Dice, grazie, come fosse uno statista. Dice grazie, uno ringrazia che sono un ospite. No. Pubblicità, borsa, torniamo subito, ultima mezz'ora, siamo ancora vivi. La zanzara. Ma va a morire, ammazza e vattene. Le zanzare di casa mia si nutrono. Allora, il leader del PDL, anzi il segretario del PDL, leader, ti sei corretto, giustamente. Sì, mi sono corretto, sì. Perché adesso, leader è Berlusconi, leader massimo. Mi inviti qua e poi dici il leader del PDL, ma, Alfano, dai. Ma l'ha recuperato, allora, recuperato? È chiaro che non è leader del PDL, no? Allora vado io. Ma ha recuperato il quid Alfano oppure no? Certo, il quid e il quod. Il quid e il quod, non ce l'ha mai avuto il quid. No, ce l'aveva, li teneva da parte e l'ha recuperato. Ma che ha recuperato? L'ha nascosto. Allora, leggi la dichiarazione. Alfano, dichiarazione di Dario Foto al contenuto spregevole, ci vergogniamo per lui. Avete fronte però no, lui si vergogna, io non mi vergogno. No, lui è Cruciani. Ah, ecco, Alfano e Cruciani. Tu non ti vergogni? Ma ti rendi conto che commentate, cioè adesso qui sono serio, cioè si stanno commentando le dichiarazioni di un premio Nobel, di un comico, di un guitto, di una persona che fa spettacolo, che fa satira, cioè un leader di partito, quale dovrebbe essere Alfano, si occupa delle dichiarazioni di Dario Fo, che nella sua vita ha scritto il mistero buffo. Ma in che paese viviamo? Ma Andreotti cosa avrebbe dovuto fare nella Prima Repubblica? Ma siete impazziti tutti e tre, Alfano, Cruciani e Liguori. Ti segnalo in questo ordine. Non c'entro, però. Perché anche tu hai attaccato Fo. Ma no, perché tu che eri di lotta continua, eri graffiante contro il potere. Ti segnalo, la dichiarazione di Fo non è stata graffiante. E poi lui ha partecipato. Ha fatto una battuta. Alle Quirinali, quindi esatto. Si è infilato lui tra i politici. Ma non puoi considerare un politico, ma non puoi considerare un politico Dario Fo. Come no? Ma è salito sul palco con Grillo. È salito sul palco con Grillo. Ma che c'entra? Ma scusa, ma secondo me perché fa Fo? Perché dici queste cretinate? Dario Fo è un politico a tutti gli effetti, molto esattamente uguale a Grillo, è un militante dei 5 Stelle. Intanto Grillo fa il leader del partito. No, ho sbagliato, non è nemmeno militante dei 5 Stelle. Un Fo è Dario Fo. Testimonio. Ha detto che aderiva, gli andava bene partecipare alle Quirinarie, quindi ha partecipato, non è iscritto a nessun movimento, non ha la tessera dei 5 Stelle, è un premio Nobel, ma soprattutto è un uomo se di ne frega che un premio Nobel soprattutto adesso. È un uomo di spettacolo, c'è un leader politico Alfano che perde il suo tempo criticando un uomo di teatro. Cioè, siamo proprio alla follia ormai qui, no, manca solo ha fatto un Twitter, mica ha perso un tempo. No, secondo te perso 30 secondi ha perso Twitter. Tempo per rinfocolare una polemica inesistente, cioè ma rinfocolare è successo un casino. Un politico commenta le dichiarazioni di un comico e poi ci stupiamo che un comico diventi leader di partito come Grillo? Se vi piace così tutto il circo, continuiamo pure. Vabbè, così. Guarda, sono anche stanco per rispondere a queste cose che dice. Perché non avete banale. Più argomenti. Gennaro dialettici. Dalla provincia di Caserta, buonasera Gennaro. Buonasera, buonasera Cruciani, sì. E buonasera anche ai suoi ospiti a Parenzo. Sì, salve, sente? C'è sì, un ritorno sì. Però. Ma no, ritorno, cioè, noi sentiamo il bene. Spegni la radio. Non ce l'ho la radio accesa. Vabbè, allora accesa. No, io le volevo dire, no, mi deve togliere una curiosità, una domanda un po' personale su certi aspetti. Le volevo dire, ma lei si diverte, diciamo, quando fa sentire certe cose usando un network nazionale? L'urinaterapia, ste cazzate, ste minchiate varie, insomma, le posso dire la verità, lei è una persona molto intelligente, quando fa delle interviste a certi personaggi pure della politica, del mondo dell'imprenditoria e tutto quanto, l'apprezzo moltissimo, mi piace tantissimo la trasmissione, però quando sento queste cose, no? Così come dare un quarto d'ora, 20 minuti a disposizione un network di Radio 24, a un pagliaccio che fa. Cioè, voglio dire, alla fine scende lei alla stessa situazione e si mette a pari passo per quella persona, pare che si diverta un po', ma è un po' sadico su certi aspetti, pure quando la maltrattano, pure che pare che ci ride, ci fa le battute, le posso, come comico è un po' scarso, veramente. Ha finito, non lo so questa... perché. Ha finito questa sua tirata o no? Ha finito o no? E per forza le cose sue vanno bene. Ha a disposizione due ore un network nazionale che può dire le cose che vuole lei e come le vuole lei. Sicuramente avrà un buon 7.40 e quindi le cose sue vanno bene. Ma le si immagini un po' delle. Non è che mi dà fastidio, è una le mancanza di rispetto, eh. Perché ma che mi rode, perché qua comunque sta andando tutto, qua sta andando tutto, ma che mi dà che si arrabatta dalla mattina alla sera? Perché si arrabatta, poveretto? Si arrabatta. È giusto secondo lei, lei è una persona che Cruciani, lei è un giornalista, è laureato, ma è giusto una cosa, è provocare le persone, provocare la gente che l'ascolta. Poi lei ha un canale a disposizione, le cose le può modificare come vuole lei, insomma, no? Lei è quel Parenzo con la voce a trombettella, no? Sì, insomma, fate tutte. La voce a trombettella. Ma perché ha perché timore? Non è vero. Perché è vero. La voce cosa è vero, è vero. Ma voi fate finta di litigare, voi. Voi fate finta di litigare, no? Però alla fine già partite con la cosa che dovete litigare le persone. Cioè, ma no, vabbè, e non è un'informazione, io penso che speriamo che venga un regime serio, forte e che sia veramente e che questi microfoni li tolga un poco da. Dalle bocche sbagliate o da chi non ne sa fare sì, o no, da chi non ne sa fare buon uso spero no ma ha ragione non c'è dubbio questo. No ma io che capisco potete fare un po' di informazione più fatta bene, qua c'è la gente che ormai sta veramente sta male e poi stiamo su un network nazionale quindi però scusi perché Gennaro non è così. Certo che è così. Allora date la possibilità pure agli altri di poter dire la propria, no? Ma è tre minuti che sta parlando, Gennaro. È tre minuti che non fate altro che dire che noi dovremmo parlare di altro. Cruciani. Scusi, Gennaro, ma lei finalmente però ha avuto la possibilità di sfogarsi. Lei voleva sfogarsi. Io voglio dire un'altra cosa e poi basta. Lei ha sempre detto che bisogna liberalizzare tutti i sistemi. Allora dovrebbero liberalizzare pure le radio. Ognuno si compra la radio in casa e trasmette. E ognuno dice la propria e la fa ascoltare a tutti. E questa è la possibilità che dovrebbero dare. Ma e perché non la danno questa? Bella questa idea. Facciamo anche Radio Urina, ad esempio, col signore che ha chiamato prima. No, fermi. Radio Urina, professor Serio. L'argomento è serio. Gennaro ha totalmente ragione. Chiunque può fare la radio. Il problema è chi lo ascolta. Allora, ognuno dice almeno ma tu stai seguendo seriamente i ragionamenti di Gennaro? In serio, Gennaro, direttore Liguori, direttore Liguori, senta una cosa, io non parlo, chi lo ascolta, Cruciani? Oggi purtroppo il problema è proprio farsi ascoltare. Però bisogna avere i mezzi per potersi far ascoltare. No, bisogna dire delle cose che la gente ascolta. Grazie, Gennaro. Mi dia un abbraccio virtuale. Mi dia un abbraccio, se no non dormo stanotte. L'abbraccio. Tocca per l'urina. Questa ce l'hai tirata, amico mio. Poi se non dorme questo, stasera si mette un bicchierino. Gli estremi in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanza. Lei è quel parenzo con la voce a trombettella, no? Insomma fate tutte. Stasera conduciamo in tre il sottoscritto Paolo Liguori, David Parenzo in diretta da Perugia. Con la voce a trombettella. Buona urina a tutti. Bene, allora abbiamo con noi in diretta da Monopoli il barone Vitantonio Colucci. No, il barone non ce la posso fare stasera, signor Cruciani. Il barone no. Barone, buonasera. No, l'urina, il buonasera, barone. Giuseppe, come stai? Ma Giuseppe cosa? Si conoscono, sono amici, capito, col barone. Ah, si frequentano col barone. Ciao, barone, dove? La tua trasmissione è veramente formidabile. Ci vediamo tutti. Barone, sì, lo so, ho capito. Oppure un bel nome, la Zanzara. Lo so, ho capito. Giuseppe, ascoltami bene. No, barone, mi ascolti lei. Ma che è il comizio del barone? Aspetti, barone, un attimo solo. La prima cosa che deve fare, perché io sennò vado a Milano e strozzo quelli che la mandano in onda, è che lei deve togliersi il viva voce, perché lei lo so che si è piazzato. No, la scrivania. Voce. Ma lei sta con la scrivania tutto spaparanzato così. Ha messo il viva voce. Praticamente vicino alla mia scrivania. Sì, ma deve camera alta, certamente è un disturbo, per come devo fare? No, ma no, ma lei ha un auricolare oppure metta il telefono? No, sono proprio l'apparecchio telefonico vicino all'orecchio, non ho un auricolare. Vabbè, comunque, caro barone, Giuseppe, come dobbiamo fare? Vuoi che No, va benissimo. No, va benissimo così. Barone, mi tanto Colucci. Parlo un po' più piano? No, va bene così. Se fosse una linea fissa, assomiglia la voce a quella di Crocetta, il barone Vitantonio Colucci. Vagamente. E poi mi diverte molto la tua trasmissione. Stavo dicendo, pensa un po', l'altro giorno, no? Mentre ero a casa, sentivo una zanzara, no? Che diceva un'altra zanzara. Ma come sono stupidi gli uomini, gli italiani. Appena ci vedono a noi, sentono il nostro rumore, si prendono subito a schiaffi. No, barone, ma queste battute, queste freddure, barone, dove le pensa? Barone è candidato a sindaco, peraltro. Certamente. Andiamo in città, no? Sì. Sono andato in un bazar, no? Ascoltami bene. In un bazar, perfetto. Amico di Cruciani. Sono andato in un bazar. Scusa, voi vedete di tutto qui. Sì, noi facciamo tutto qui. Facciamo anche analisi di urine, vendiamo le urine. Porco cane, a questo punto se faccio una cosa, si lavi le mani e mi dia un sandwich. Scusi un secondo, barone, voglio capire. Comico naturale, barone, complimenti. Scusi, barone, scusi, lei è anche candidato sindaco lì, no? Giuseppe, scusami, ma è così strano il mondo. Che più strano di così non si può. Voi raccogliete proprio la stranezza di tutto quello che accade tra politici e non. Si sente un po' male, in verità. Il barone di Munchausen. Allora, lei è candidata a Monopoli per due liste, addirittura due. Monopoli. Lista si chiama Monopoli che lavora. Sì. Guarda caso, l'altra si chiama Città Libera. Perché dici tu si chiama così? Perché una Monopoli che lavora, l'altra non può essere se non una Città Libera. Chi se ne frega? Perché ho ragione o no? Sì, no, beh, sicuramente ha ragione. Una lista controllata. C'è un candidato di una lista controllata. Monopoli che lavora, perché evidentemente c'è una Monopoli che lo fa cazzo. E che è l'altra lista, Esatto, Barone, torno un attimo, devo dare il traffico. So che a Monopoli a quest'ora non è che sia molto importante, però c'è il traffico per tutta Italia. Il barone Vito Antonio Colucci, candidato a sindaco. Ma perché lo chiami Barone? Monopoli, perché mi piace molto. Cioè, questo barone, veramente? Ma un barone che si candida. Due liste. Sì, di due liste. Ma che differenza c'è tra Conte e Barone? Che differenza c'è? Beh, molta differenza. Ma lei è più Conte o più Barone? Ma lei è, barone sul serio oppure un barone finto? No, no, sono un barone sul serio. Io ho molti meriti. Purtroppo per me ho molti meriti. E poi è inutile stare a parlare che sono grande ufficiale della Repubblica Italiana, grande ufficiale di Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma ho almeno centinaia di titoli. Ma dite perché voi dove hai tanti titoli? Perché sono 45 anni che faccio il non lo stiamo chiedendo. Ce lo dica durante la pubblicità, così traffico, traffico. La Zanzara. Lei è quel parenzo con la voce a trombettella, no? Insomma, fate tutte. La voce a trombettella è arrivata. Zin zin a pizzicar sulla testa e sulle braccia, sulle spalle e sulla faccia, sulle mani e le ginocchia. Lei mi vuole pizzicare. Qui siamo qui, ultimi 10 minuti da Perugia, 800 24 00 24, con il barone Vito Antonio Colucci che ci parla da Monopoli. Ma scusi barone, cosa bisogna fare per i giovani? Dia la sua ricetta per i giovani. Ma perché non c'è? Ma no, ma così io credo una domanda... che i giovani hanno bisogno oggi, oggi più che mai, bisogno di lavoro. Praticamente il lavoro ci voleva il barone. Praticamente, a mio giudizio, un motivo di vita per tanti giovani che oggi purtroppo sono inoperosi. Ovviamente ci sono tanti altri corsi che bisogna fare per i giovani, dando incoraggiarli, avere, diciamo, molta, dare a loro molta speranza, molta fiducia. I giovani sono la parte più importante della società, non si possono non ricordare, non prestare attenzione. Praticamente è un fatto molto importante, cioè per i ragazzi che oggi sono purtroppo allo spasso. Scusi, io comunque se voi vogliamo come allo spasso, scusi. Lei ha detto sono allo spasso, come allo spasso? Allo spasso perché non hanno lavoro, cioè non hanno lavoro praticamente. Non hanno lavoro. Ma scusi, il matrimonio è importante, il matrimonio è importante. Sì, è importante il matrimonio per i giovani, perché il matrimonio praticamente consente loro di impegnarsi di più nel lavoro, di cercare un lavoro stabile, gli dà grandi soddisfazioni, ma poi c'è da dire anche che il matrimonio consente anche uno sviluppo demografico. Ma io l'ho già detto, se vogliamo creare una vera democrazia, caro barone, si può anche figliare senza essere sposati, lei lo sa, no? No, ma perché dici così? Sì, però noi abbiamo bisogno anche di avere uno sviluppo demografico, perché la demografia, caro barone, non va da nessuna parte. Però si può fare l'amore anche senza tecnicamente avere il sacro vincolo del matrimonio, no? O bisogna matrimoniarsi? Io dico che noi siamo cristiani, dobbiamo puntare comunque al matrimonio. Così, al matrimonio, non c'è dubbio. Cristiani. Noi in Italia il 90% degli italiani sono dei cristiani, cattolici cristiani. Non c'è dubbio. Quindi noi dobbiamo tentare, puntare al matrimonio, così come si faceva. Non c'è una dubbio, volta. Però scusi, barone Colucci, barone Colucci. I figli si possono fare anche fuori dal matrimonio, lei lo sa. Interroghi come fosse una persona. Lo so che si possono fare, ma io sarei più per. Per la proibizione, una unione come si dice, si può dire corretta, certo, non c'è dubbio, cristiana, fede, perché oggi non è che possiamo andare come vanno praticamente gli animali, diciamo, che si mettono insieme e fanno i figli, cioè noi ma che c'entrano gli animali che fanno i figli? Non è che uno, se non è sposato, un animale che fa i figli. Non abbiamo un senso che ci vincola da una fede cristiana, e io sono un cristiano, grande ufficiale di Santo Sepolcro, quindi credo anche in Dio, credo, e quindi noi dobbiamo indirizzare tutti i cattolici verso il matrimonio, indirizzare i giovani. Barone, nel senso barone, scusi, si fermi un attimo, barone, io volevo capire, a Monopoli ci sono omosessuali? A Monopoli? Beh, No, ci sono monopoli omosessuali. Perché ci sono un po' in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutto il mondo, penso che ci sono pure a monopoli. E che ne so, esistono. Ci saranno, io non li conosco perché. Si vedono per strada ogni tanto, magari con mano nella mano. Si vede per strada, ma sono molto garbati, molto discreti. Sì, perché sono, sì, non fanno la pipì per strada, non è che certo. Che fa la pubblicità delle sue cose. No, io certo, vedo delle sue cose. Molti, certo, diciamo, alcuni omosessuali, sì, sono delle persone molto garbate, alcune, che sanno gestirsi, sanno avere un rapporto con tutto il collettivo molto garbatamente. Molto garbatamente. Lei dice che dicono, per esempio, buongiorno, buonasera, cioè sono persone normali. Il famoso bacio, certo, non è il che famoso bacio per strada, una, come si dice, un problema, assolutamente no. Se lei poi vede due che vuole, se lei vede anche i monopoli, no? Siccome avete parlato molto delle zoccole. Ah, che è successo con le zoccole? Non che è successo? Ricordate, vero o falso? Ma è pieno, sì, noi parliamo sempre di zoccole, ma che ci sono, no, prostitute. Il punto è questo, siccome nella zona, diciamo, centro storico di Monopoli, che è molto bello, sì, praticamente sì, ho visto passare un topo, no? Sì. Un topo, sai che sono i topi, no? Noi, sì, a Monopoli, sì, i topi, quando sono un po' più grandi, li chiamiamo zoccole, però non è che ci sono solo a Monopoli le zoccole, io penso che in tutte le zone più un po' più, sì, abbandonate, quindi d'Italia, sì, non è difficile trovare qualche zoccola in giro. Ah, lei ha fatto la battuta, ha fatto la battutona, la battutona. Un'altra freddura, la freddura del barone. Grazie barone, a presto, grazie. A presto, non lo so. Purtroppo io non lo so com'è che siete poco bene, però io a voi vi sento. Sì. Diciamo grazie di tutto e speriamo di vederci presto, Giuseppe, voglio dire anche il tuo amico, collega. Sì, no, grazie barone, non si preoccupi. Grazie, a Monopoli, Ciao. Sì, sì. Ciao, grazie, ciao. Va bene, siamo quasi in conclusione, però Marta da Milano, su, Marta da Milano. Marta? Oscar da Modena, buonasera Oscar. Buonasera Cruciani. Eccoci, vada. Le telefonavo perché questa mattina ho avuto uno spiacevole inconveniente. Ero fermo a un semaforo, era molto presto, due signorine, chiamiamole prostitute, mi si sono avvicinate per entrare nell'auto. Insomma, per fortuna avevo chiuso la sicura, mi hanno esibito le loro referenze alzando la maglietta sul finestrino. Ma non mi pare una cosa grave, Oscar. Vorrei che gli mettessimo una targa, visto che vanno per strada, gli diamo il libretto di circolazione, gli facciamo un bel parcheggio strisce blu dove pagano, anche un garage, poi anche le analisi ogni tanto, tu mi discarico. Ma sono d'accordo con lei, Oscar. Targa, legalizzare tutto, no? Lui dice legalizzare, sì, controllare. Ma a me non è mai capitato però di girare la mattina. Paolo Liguori, sei mai andato con una prostituta, Paolo? Sì, qualche volta sono andato, in anni giovanili sono Dicono andato. Tutti così alla fine, dicono no, tutti, sono andato sì, ma tanti anni fa. Io mai Io da 32 anni vivo con la stessa compagna, è diverso, è un altro ritmo di vita. Da 32 anni? Sì, può succedere che una scappatella con un'altra donna, ma non vado a cercare una. È successo, hai tradito, Ma non è successo, ha detto prima dei 32. Ma prima 32, da giovane, qualche volta sono andato. Però è inutile che qui continuino a dire che bisogna regolarizzare la prostituzione, le case. Tutte stupidaggini del secolo scorso. La prostituzione è stata già regolarizzata. Ma no, ma dai, non dire ma così. Sì, nelle grandi città ci sono centri assolutamente legali a disposizione, legali, gestiti da cinesi, gestiti da thailandesi, centinaia, mentre noi ci balocchiamo. Ma tutto a nero, fatemi sentire Armando da Roma. Devo concludere con Armando da Roma. Dica Cruciani, buonasera Cruciani. Vada. Sì, buonasera. Bada, allora, abbiamo chiuso. Senta, due parole soltanto. Questa sera lei ha collezionato suo malgrado una serie di uomini di sinistri perché, perché la loro morale, diciamo, è così bassa che Brunetta al cospetto diventa un gigante. Sì. Mi segue Cruciani? Ho capito, va bene, lei pensa che Dario Fo sia stato... Perché guardi, è gravissimo quello Cruciani. Quello che ha detto chi? È gravissimo quello che ha detto chi? Le Fo. Po, vabbè, lo sappiamo, Po. Cassonna anche ha un po' insultato Brunetta. Un attimo solo, devo chiudere con Marta da Milano, grazie. Marta da Milano, veloce. Marta, pronto? Sì. Vada. Sì. Buonasera, buonasera, sono Marta. E allora, niente, allora, guardi, mi sente? Sì. Ok, mi dispiace dirlo così in sì. diretta, però chiedo a Radio Bada. 24 che cambi il conduttore della Zanzara, metta un conduttore che parli di politica e non un buffone. Mi dispiace, non avverrà. A lunedì 18:30. Ciao. Ciao. Ciao Marta. Quel parenzo con la voce a trombettella, no? Insomma, fate tutte. Radio 24. La passione si sente.